la zanzara di Giuseppe Cruciani, che non è una persona intelligente, ormai il numero di parolacce fa sì, non le sente neanche più. Se Giuseppe un giorno dicesse la parola tenerezza, rimarrebbero tutti a bocca aperta, perché al 50esimo stronzo va in culo, cioè, passa, esce, entra un orecchio, esce dall'altro. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, ieri mentre sentivo il podcast della zanzara in università, la ragazza accanto a me dice: ehi, scusa, puoi abbassare il volume della musica? Io: questa non è musica, è poesia, capra. Ti segnalo, caro Parenzo, che il regista non è cambiato, eh? Sì, questo no. Si capisce? No, veramente ancora non si capisce oggi, Ancora non si capisce. No, ma ho già capito. Con le palle piene! Grazie, eccolo là, eccolo lì. In regia il signor Pietro Lacorte. No, è assunto a tempo indeterminato. Sì, sì, sì, sì, bravo, sì. Vabbè, che cazzo c'è? Non adesso lo potete mandare via, non lo potete mandare via. Ma che vuol dire? Allora, scusami. Allora, volevamo aprire questa edizione con la questione dell'Italicum. Edizione, ma che stai, agli anni 50, edizione. Questa è edizione della zanzara, questa, no? Questa no, ma edizione. C'è qualcuno che ha detto la corte è un dio. Prendetemi questo, prendetemi questo messaggio, vi prego, prendetemelo subito, prendetemelo. La corte è Dio. Adesso, chi è, non esageriamo. No, che sennò la gente si monta la testa, capito? Si monta la testa. Però, dunque, però, la puntata sarà interamente dedicata a questo, con a cosa, esperti alla cosa? Sentenza della Corte Costituzionale, cioè della impazzito. Consulta. Sei impazzito. Ci saranno per le prossime due ore esperti, ex giudici della Corte, il professor Onida, eccetera. Sì, poi ci sarà Onida, guarda, è sicuro. Sì, professore, però, guarda, ex giudice della Corte Costituzionale, sì. Certamente, professore. Ricordi che gli facevamo fare una figura di palta, di cacca, come, anni fa, sì. Bene, insomma, va bene. Professori, intellettuali, giuristi e soprattutto esponenti della società civile che si confronteranno in modo pacato con noi sulle conseguenze della sentenza della consulta. Allora, io ci sono due cose, ragazzi, non me ne frega assolutamente nulla della sentenza della Corte Costituzionale. L'unica cosa sicura è che la Corte Costituzionale ha deciso che nella legge elettorale, quella sotto inchiesta da parte della Corte Costituzionale, non ci deve essere il ballottaggio. Dico solo questa cosa e poi mi taccio per sempre. Ora mi spiegate voi, una persona normale dice: scusate, ma non esiste il ballottaggio per eleggere per esempio i sindaci? Perché non ci può essere il ballottaggio per eleggere i deputati, per eleggere il Parlamento? Dopo di questo mi taccio per sempre. Non voglio sentir parlare di Corte Costituzionale, cioè, so solo che molti dicono andiamo a votare subito, ecco, e io sono d'accordo con questo. La maggioranza delle forze politiche, mi pare, lo dica. Vabbè, questo, maestro, è il punto. La maggioranza delle forze politiche, chi sei? Quindi sei? Vuol dire che si andrà al voto, no, probabilmente, lo so, vabbè, a giugno. Però possiamo aprire una discussione su questo? No, direi di no. Va bene, niente discussione. Allora, dicevamo, i rapporti anali, giusto? No, così fai tu. I rapporti fai così tu, fai così, si sta parlando di una cosa, no, basta, non mi interessa. Allora dice: scusi, ma generale, come il generale Mori, ieri bellissima intervista, straordinaria, ripresa da tutti, sul caso Regeni, eccetera. Sai che ho avuto la poi che gli piazzi la domanda, dice: scusi generale, sì, prego, mi dica, vossia, educato. Dice: ma nella mafia ci sono froci. Generale, ma come? Che cazzo, ma che roba è? Così fai tu, così! Allora, andiamo sui 5 Stelle, sì. La vicenda della Raggi indagata. Sì, pazzesco. Si incazzano perché qualcuno osa criticare, osa semplicemente criticare. Non è che ce l'ha con i 5 Stelle, adesso dobbiamo dire la verità: noi non ce l'abbiamo con i 5 Stelle, no, ce ne fottiamo totalmente. Sì, cioè, sì. Se la Raggi fosse un sindaco meraviglioso che rimette a posto Roma, l'immondizia, le strade, saremmo qui a fare le bandiere. Assolutamente. Ma proprio le bandiere alla grandissima. Ma è indagata, abuso, non mi ricordo, non mi interessa nemmeno. Prima loro mettevano in croce anche gli indagati, esistono dei tweet della stessa Raggi, perché adesso si inalberano quando uno fa notare questo cambiamento? Dite sì, ci abbiamo ripensato, ci abbiamo ripensato. Gli indagati, finché non sono colpevoli, possono governare. Oh, ma uno lo deve dire chiaramente. Ma invece no. La stampa va a vedere ogni piccola cosa nostra e non vede le colpe degli altri, eccetera, eccetera. Sallusti contro Travaglio. Poi basta pure questo argomento, mi ha rotto i coglioni. Andiamo sulle cose analiche. Ma guarda, mi pare che... Su questo vedo che converge anche Marco Travaglio, che ha scritto libri, decine di articoli, ha messo alla berlina, umiliato politici di altri partiti, non grillini, raggiunti da avvisi di garanzia. Vedo che anche lui ha cambiato idea rispetto a questo automatismo. Quelle garanzie che tu oggi stai dando alla Raggi non le hai date, cito degli ultimi esempi, a Marino, l'ex sindaco, che peraltro è stato completamente assolto, al ministro Lupi, che si è dimesso senza neanche essere stato indagato, alla ministra Cancelliere, insomma ai 19 sottosegretari su cui tu hai scritto numerosi articoli che erano indagati nel corso degli ultimi due governi. Dell'ex sindaco di Roma Marino io l'ho difeso quando il Partito Democratico lo voleva cacciare per l'indagine sulle note spese, indagine sulle note spese che è nata per un articolo del mio giornale, perché per fortuna so ancora distinguere tra una notizia, no, e uno scandalo che produce le dimissioni. Beh, come avete capito, già mi sono rotto le balle pure di questo argomento, mi annoia profondamente. Beh. C'è una ci sono due pesi e due misure, su questo non c'è dubbio. Questo basta, da dirlo, dai. Basta, non è che bisogna essere contro Grillo per dire un'evidenza così, così lampante. Ci sono due pesi e due misure. La Raggi indagata può rimanere lì, altri indagati li mettevano in croce. Basta, finito, chiuso il discorso. Allora, caro Parenzo, come sai, nel Canal Grande di Venezia un profugo si è lanciato. Terribile questa per storia. Motivi, per motivi abbastanza ancora non chiari. Oscuri. Un profugo del Gambia ed è morto. Nessuna tragedia. Leggo, nessuno tenta di salvarlo. Effettivamente nessuno si è buttato per salvarlo e questo ma è morto. Ma anche ha dato l'allarme, questo intendo, non è che uno deve fare per forza l'eroe. Tu dici magari che c'è stato l'allarme. Del razzismo, c'è stato del razzismo. Ma sicuramente visti cioè, i veneziani se ne sono sbattuti, dici. Potevano dare magari non si erano adesso non è che si erano accorti magari che era negro o non negro, ma vedono uno in acqua, dai l'allarme. Adesso non penso che sono andati lì a vedere. No, allora, guarda, mi pare negro, non devo allarme. Non ti mi leggo pare alcuni che, commenti. Un tale Pasquale De Sena. Io per Pasquale? Un cane De Sena. Io per un cane avrei rischiato la vita. Per il profugo, bene, uno in meno, e adesso ho provato a darmi del razzista. Beh, insomma, dice uno. Nome e meno. Cognome, questo? Vabbè, adesso, ragazzi, Pasquale 18 e 44, è stato commesso un reato. Sì. Non cominciare, commentiamo dai. A segnalare alle questure. Dai, su. Ma non cominciare ogni foro volta. Foro di competenza, così. Sì, sì, foro di competenza. Dai, 18 dai. E 44. Dai, dai, ma dai cosa, dai? Adesso una cosa schifosa, razzista, dice dai. Una tale che si chiama Erika volta uno in meno. C'è sempre questa costante, uno in meno. Un altro, Michelangelo Leoni, buttati Boldrina, buttati! Cioè, la doveva salvare la Boldrini. Da brividi sta roba. Un tale Biagio Mezzero, meno uno. Un tale Alessio, uno meno sulla terra. A me queste cose mi fanno incazzare, ma non queste cose qui è normale che ci sia razzismo, dai, il razzismo esiste. Normale per te. È normale che ci sia razzismo. No, ma il razzismo esiste, ma una volta se ne stava nascosto nelle fogne, adesso, o nei bardi, nei pessimi bar di Caracas, come si diceva. Ma adesso esce fuori, qual è il problema? Ora invece esce, vuol dire che è sdoganato. Allora, Librandi, vuol dire che ormai il signor Librandi. Poveretto, il bersaglio, l'ospite dei figli dalla vostra parte lì. Quando non sai chi mettere, dici qualcuno, metti allora, qualcuno di impopolare, metti Librandi, dai, che tanto va benissimo. Ho letto da qualche parte oggi: Shock Librandi. Cosa avete detto, tende e container. Ma non ha detto che avete le tende e i container, non dovete mai più avere una casa, signor Librandi. Comunque, senti, grande battaglia con i terremotati di Norcia, all'uopo chiamati per polemizzare con Librandi. Senti. Vieni a dormire a meno 6 gradi. Bravo, Librandi, Librandi, vieni a meno 10 gradi invece di parlare. Vieni Ascolta, a meno 10 gradi, vieni qua. Mi è stato detto di andare a dormire negli alberghi sulla costa. Ci sono i container, ci sono tutte le possibilità, ci sono le tende intanto che arrivano. Dove le casette. Dove stanno? Le casette. A Librandi fanno dei telegiornali su misura. Avete le tende, i container. E poi lo attaccano. Vieni a dormire a meno 6, a meno 10. No, ecco, il titolo di Libero Quotidiano, lo vuoi sapere? Qual è? Sempre qual una è? Bella sintesi, direi. C'è la foto sua come fosse un criminale, no? Tutta un po' sbiadita. Poi c'è scritto Librandi, l'ex montiano sputa sui terremotati. Sapete dove potete andare a dormire? Pioggia di insulti in diretta TV. Guardate come è andato a finire. Ma che roba? L'ex sputa sui terremotati. Ma chi ha sputato? Ma cosa dite? Cosa? Dai! Ma cosa dite? Buonasera e buona coda a chi è in macchina con La Zanzara. Semplicissimo, se volete parlare dei filetti di merda di Sgarbi, o volete indicarci qual è il miglior combustibile per i rom, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece volete parlarci delle emorroidi dei froci, o volete chiamare negro qualche profugo, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al top. C'è sempre qualcosa, capito? Che non va in questo. Allora leggo: Patè Saballì ha voluto morire a 22 anni a Venezia. Era scampato all'odissea delle acque immense e solitarie del Mediterraneo. È affogato per sua scelta, dunque suicidio, in quelle protette affollate del Canal Grande, che appare abbastanza incomprensibile. Comunque ci può stare. Partito da Pozzallo in Sicilia, dove ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo essere scappato dal Gambia, era arrivato a Milano e da qui aveva preso un treno per Venezia. Lo fanno molti di venire a Venezia come meta di una fuga. Domenica pomeriggio, poco dopo le 15:30, è sceso dal treno, è uscito dalla stazione, ha lasciato il suo zainetto sulla banchina all'altezza del ponte degli Scalzi, proprio davanti allo scalo ferroviario, si è buttato in Canal Grande, nuotando verso il centro. Quattro i salvagenti che gli sono stati lanciati. Certo, è abbastanza bizzarro che uno parte dal Gambia, attraversa lo stretto, quello che è il Mediterraneo, arriva in Italia e si suicida a Venezia sul Canal Grande. Bah, comunque. Ma che vuol dire? Ma no, è strano. Comunque, a proposito di Rigopiano, senti, cosa è strano? No, è strano uno che si suicida, uno che si suicida dopo aver fatto l'inferno, si suicida a Venezia. Ma che? Cioè, ma che suicidio ma a Venezia? Cos'è? Era il titolo di un film, mi sembra, suicidio a Venezia. Suicidio, morte a Venezia. No, morte a Venezia, morte a Venezia. No, senti qua, sulla vicenda di Rigopiano, senti il signor Messner, che è veramente da incazzarsi. Raimond? Cosa. Sì, Messner. Raimond. Ha questa particolare tesi, cioè lui sostiene, ma sentite che è meglio, cioè, sapete Rigopiano, le polemiche che ancora ci sono, soprattutto sul fatto, apro una parente, come diceva una volta Frassica, sul fatto che non è stato rivelato il nome dell'operatrice della protezione civile, che è stata molto evasiva al telefono. Ora ditemi, vengono spiattellati sui giornali nomi di politici, indagati, pezzi di merda, figli di puttana, gente innocente, gente colpevole, eccetera eccetera. Non si capisce perché non si deve conoscere per nome e cognome, nessuno la vuole colpevolizzare, questa signora della protezione civile che ha risposto al telefono al signore che per primo ha chiamato annunciando la tragedia imminente o la tragedia già avvenuta. Non si capisce per quale motivo, cioè nessuno la vuole crocifiggere. Fateci sapere il nome, spiattellate sui giornali chiunque, deve uscire il nome di questo qua, che è peraltro un funzionario dello Stato pagato da noi, da tutti noi. Comunque, sentiamo Messi. Da noi in Sud Tirolo una cosa del genere non sarebbe possibile, certo. Perché da noi il soccorso è organizzato in un modo con i vigili di fuoco, con tutti gli uomini che lavorano con il soccorso alpino. Tutti preparati bene, con gli elicotteri che vanno anche di notte. Da noi portano via anche 3 metri di neve di notte se c'è qualche cosa di necessità, però questa è un'eccezione perché noi stiamo bene in Sud Tirolo e siamo ben organizzati. Allora, amico mio Messner, però adesso veramente questa cosa è noi Sud Tirolo, no, siamo organizzati perché... essendo ragazzi, regione a statuto speciale, delle... c'hanno anche più soldi, più mezzi. Ma che vuol dire? Ma ci sono, sono delle condizioni eccezionali che nemmeno Messner, no, cioè chiaro, non è nemmeno l'organizzazione questo... del Sud Tirol, il Sud Tirol, nemmeno l'organizzazione tedesca del Sud Tirol. Perché devi prendere dai, in giro così, su, però. Perché mi hanno rotto i coglioni con queste cose qua. Cioè questi qua con questa loro supponenza, con questa loro prosopopea, no, fuori dubbio con che questo le cose senso di superiorità meglio che da altre parti d'Italia. Ma d'accordo, benissimo, quella quello... è Italia, Italia, ah, quella capito? È Italia, certo, allora, dubbio. Lì funzionano le cose meglio che in altre parti ma d'Italia, d'accordo, questo però fuori non dubbio, è che puoi dire perché hanno più soldi, d'accordo, sono ma una non ragione... puoi dire quello che è successo lì non sarebbe no, questo, mai successo da noi, mi sembra perché una sciocchezza, è ridicolo, però, no, è ridicolo. Però è fuori di dubbio che sono più attrezzati a gestire le emergenze più che in Abruzzo o da altre parti, questo mi pare abbastanza evidente. Vabbè, ma che vuol dire? Ma non puoi dire non sarebbe successo da noi perché noi siamo più organizzati. Ma perché devi fare siamo così più la voce? Organizzati. Vabbè, quello parla così, non è che non parla così, eccetera. Giovanni da Ravenna, dai, iniziamo. Giovanni. Apriamo, dai, apriamo. Apriamo le turbine. I cancelli, sì. Apriamo i cancelli. Giovanni. Posso? Dimmi, Giovanni, posso? Ecco qua, sì. Posso, sì. Che ecco, deve fare? Volevo ecco dire qua. Che io sono Giovanni di Foggia, sono il fascista. Fascista sì. Non è un reato. Non lo so, no. Non è una roba. No, l'idiozia ne ha anche. Volevo dire che il comunismo ha fatto più morti del fascismo. Ma comunque, che c'entra questo? Comunque, 2017. Ma cosa c'entra questo? Cosa c'entra? 2017. Caro Parenzo, perché tu, il modo tuo di parlare, ti fai odiare, capite? Non è colpa tua se tu sei nato dal buco sbagliato. Ma no, vabbè, perché adesso tua... Come dice dai, professore, no, scusi? Tua... Come dice questo intellettuale? Giovanni, come dice... melodia di parlare. Sì. Tu vuoi per forza che le cose vanno così. Devono ma chi andare vada, in... no. Ma come dici tu? Ma cosa? Non è così, caro Parenzo. Ma di cosa non parli? Un paese civile e democratico. E me che c'entra? Hai capito? Ma se tu e sei fascista... libertà di pensiero di parlare. Ma di chi... dire, ma... non di essere condannato. Nel parlare. Ma a cosa non ti riferisci? Giovanni, a dai. Cosa ti riferisci? Non ho capito. Non è come dice Parenzo. Ma cosa? Vabbè, l'oggetto della discussione qual è? L'oggetto della discussione perché lui vuole che le cose siano che va a devono non sa andare che dire. Nel modo in cui dice lui. Se la cosa non va come dice lui, la cosa non è ammissibile. Ma di che sta parlando? Beh, David? Però è interessante vedere come una persona che sostanzialmente ha il cervello vuoto, la zucca vuota, riesce ad articolare delle frasi che sembrano di senso compiuto. No, la infatti. Zucca ce l'ha piena, sei tu che ce l'hai vuota. Di stupidaggine. Ma di che cosa c'è? Scusa. Ma le stupidaggini le dici tu, caro Parenzo. Ma scusa, come hai fai capito? A dire, come fai a dire, amico mio, come fai a dire che sei fascista? Spiegami, Giovanni. Io sono fascista perché come fai a dire... Che uno è comunista, io sono fascista perché c'è un qualcosa che non può andare. No, ma oggi sì, che teoricamente non oggi si potrebbe. Ti auguri comunque. Il ritorno del duce. Questi sono affari miei. Questi sono affari miei. Beh, questi sono affari miei. Io mi auguro. È così. Il ritorno del duce. Io dico così. Che lei deve ritornare in corsia. Nonno Adolfo. Io dico che lei, no, no, no. Io dico che lei deve ritornare in reparto urgentemente. Quei reparti. Lei deve ritornare a prendere quelle pillole. Lei deve tornare ad assumere quella terapia che la teneva calmo. Non stanno facendo niente di buono. Non l'hanno fatto prima. Ma no. Che c'entra? Perché prima, lei ha cambiato la dose di quelle medicine? Perché lei ha ma perché lei zitto. Ha cambiato la dose delle medicine? Perché doveva prenderla tre volte al dì? Curato. Vabbè, Giovanni, curato. Zio Adolfo, sì. Che t'ha fatto? Perché adori zio Adolfo? Che c'ha zio Adolfo che ti affascina? Adoro zio Adolfo e adoro il nonno Benito Mussolini, perché c'è qualcosa in contrario? Beh, zio Adolfo, ma sa com'è? Zio Adolfo sa com'è. Ne ha combinate di cotte di crude lo zio Adolfo, ma diciamo. Ma ne ha combinato di cotte di crude anche il comunista. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Una discussione interessante da fare oggi questa. I comunisti Stalin ha fatto 100 milioni di morti. Stalin. Hai capito? Ma qui senta, stiamo parlando. Riprenda la terapia, lei. Non sospenda da solo la terapia. Mi dia lei retta. È un esperto di corte costituzionale, sì, Giovanni. Figurati, sì, certo. Io ve la posso insegnare alla corte costituzionale. Sì, te la puoi insegnare. Che chi sono i giudici della corte costituzionale, Giovanni? Oh. Con chi sto parlando? Chi sono con i giudici della corte? Chi è il presidente della corte costituzionale? Chi è? Come si chiama? Beh, che vuol dire questo? Che ma chi sono? Da chi sono eletti questi qua della Corte Costituzionale? Che, cos'è che la consulta? Che decidono? Che cos'è la consulta? Senti, zio Adolfo! Zio Adolfo! Io bandiera americana non l'ho mai potuta vedere. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Presidente Donald Trump. Lei deve mettersi sotto le coperte e prendere le pastiglie. Il muro tra l'America e il Messico. No, il muro, le pastiglie deve prendere. I muri. Ma che muri? Pastiglie! Le pastiglie! Lasciatismo parenzo e alla defecazio non ci penso. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Pasquale, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Io voglio che parlate di cose interessanti, vi voglio sentire un'altra volta i bevitori di piscio. Vabbè, adesso, ragazzi, per ogni cosa c'è una, eccolo no? qua. Per ogni cosa qua. C'è. Sì. È sempre il solito, comunque. È sempre, sì. È sempre il signor La Corte. La Corte si chiama? Sì, La Corte. La Corte, ho capito. Che non è cortese, insomma, non è cortese. No, signor Pietro La Corte. Pietro La Corte. Ma ragazzi, non trovate abbastanza vergognoso il fatto che il Real Madrid per i quattrini ormai si fa tutto, per carità. Io sono l'unico, credo, che non fa le cose per i quattrini, lo sai? Cioè sono rimasto l'unico al mondo che non fa le cose per i quattrini, ma solo per l'adrenalina. Tu invece sei uno che fa le cose solo per i quattrini. No, diciamo questo la verità. È molto ingeneroso, sì. E alimenta falsi stereotipi amico, ho detto, al mio... Non mi riferivo, eccola, ma sei tu che te lo dici da solo. Ho detto aumenta falsi stereotipi. Ma non c'entra nulla, tu fai molte cose per i quattrini, cioè ti piace. Piacciono molto i quattrini. Voglio dire, io io lavoro e pretendo di essere pagato anche per molto, il lavoro che faccio. Anche molto. Vuol dire anche moltissimo volendo, però ancora non ho trovato il committente giusto. Comunque, ragazzi. Però tu fai le cose gratis? No, inizia gratis, a devolvere il tuo coso. Allora, inizia a fare gratis questa trasmissione. No, da oggi comincia. No, amico mio, troppo comodo. No, ma che c'entra adesso? Troppo gratis, comodo. Che c'entra? È una stronzata. Troppo comodo, dai, troppo stronzata. Io faccio le cose che mi piacciono. E ho la fortuna di fare cose che mi piacciono. Pagate, come direbbe Sgarbi. Che devo fare? Allora, ragazzi, sarà mica un crimine. Adesso chiameranno, mamma mia, già li vedo. Ma non trovate scandaloso che miserable. il Real di Madrid, tu sai che cos'è il Real Madrid, Parenzo? Sì. Beh, certo, una squadra di calcio. Una delle squadre di calcio più famose nel mondo. Certo, nel mondo. Questo, certo, come almeno Manchester qui ci arrivi. Una, almeno certo, qui ci arrivi. Una delle squadre, è una delle squadre anche più ricche del mondo. Una... Ma certo. Allora, ha un simbolo il Real Madrid. Ma non me ne frega niente, però. Posso dire, mi chiamate per parlare, non me ne frega, io vado al Baglione a mangiare, non me ne frega niente. Scusi Feltri, ma lei, è vero che lei è tifoso dell'Atalanta, sì. Ma fai Atalanta, c'era Berg, ma non me ne frega niente, qui a parlare di immigrati, mi avete invitato a parlare di immigrati e dei danni È morto uno del Canal Grande, ha visto, pare che si sia suicidato. Ma quale suicidio? Ma lo dite voi, ma non me ne frega niente a me. Abbiamo titolato che è stato il Canal Grande assassino, adesso è stata colpa dei veneti se un signore che è arrivato qui, non si sa bene da dove, si è buttato, va bene, ho capito, quanti suicidi ci sono ogni giorno, ma non me ne frega niente. Dici, muoiono un sacco di italiani. Ma tanta gente che muore ogni giorno, me ne frega niente. Adesso per uno fate tutta questa pizza e lacere qui, ma non me ne frega niente, dai. Vado a mangiare. Niente. Nulla, zero. Nulla, zero di niente. Ho detto appunto zero. Allora, ragazzi, però tu mi hai interrotto sul Real Madrid. Allora, il Real Madrid. Vi pare normale? Allora, ha un simbolo. Sai che cosa c'è nel simbolo, David? Sai cosa c'è? No. Allora, non sai un cazzo, la realtà è questa. No, certo. C'è sopra il simbolo del Real Madrid, c'è, no, il simbolo, nel simbolo c'è una corona, la corona dei reali di Spagna, no? Sopra questa corona c'è una piccola croce, quasi invisibile. Ora, questi signori qui, siccome devono conquistare il mercato dell'Oriente, del Medio Oriente, eccetera, eccetera, cosa dicono? Non vogliamo turbare la loro sensibilità e nelle maglie destinate ai paesi arabi tolgono la croce. Vabbè, questo. Non mi dire che sei d'accordo. Ma non me ne frega. Ma no, voglio dire, se decidono, beh, è una scelta dai. Loro. Dai. Ma è una scelta loro opportunista e di mercato. Non è una scelta. Non credo che sia una scelta di rispetto. Perché sai. Perché la croce urta la sensibilità. A me non me ne frega niente, sì, della croce. Devo dire la non me ne frega nulla della ma croce. Chi, appunto, ma chi urta l'ha deciso la sensibilità? Ma chi urta l'ha deciso? Urta la sensibilità. Ma l'hanno decisa loro. Ma perché l'hanno decisa? Per opportunismo. Ma no? Sì, per non urtare la sensibilità degli arabi. Dai, ancora con queste puttanate. Dai. Invece di essere orgogliosi di un simbolo, venderanno meno magliette. Non le venderanno, chi se ne frega. Non falliranno. Appunto, l'hanno fatto per soldi. Certo, cioè una, è quello che ho detto quindi, io. Quindi voglio dire, non è una questione. È una questione di sono degli opportunisti. Allora, vogliamo sentire quello che ha detto di noi il signor Severgnini questa mattina, Virgin Radio, così mi hanno segnalato sin da Virgin stamattina. Virgin Radio, si Virgin dice. Radio, sì, hai ragione. Io dico radio perché me ne sbatti così. Radio, sì, radio. Signor Severgnini. Ottimo, Severgnini, bravissima persona. Sì, no, figura, grande amico, assolutamente. Ottimo, accetto Severgnini. Tutte le critiche da Severgnini possibili e immaginabili. Sì. Tutte le critiche possibili e immaginabili. Poi naturalmente rispondo, però. La zanzara di Giuseppe Cruciani, che non è una persona intelligente, ormai il numero di parolacce fa sì non le sente neanche più. Se Giuseppe un giorno dicesse la parola tenerezza, rimarrebbero tutti a bocca aperta, perché al cinquantesimo stronzo va il culo, cioè, passa, esce tra un orecchio e esce dall'altro. Cioè dovrei pronunciare la parola tenerezza. Beh, sarebbe dovrei spiazzante. Utilizzare la parola tenerezza. Tenerezza. L'Apo Elkan prosciolto da ogni accusa del sequestro, là, finto sequestro. Prosciolto da ogni accusa. Vedi, la giustizia americana però, non quella italiana, quindi. Falso sequestro, non era vero. Vabbè. Hanno parlato di noi pure durante la trasmissione Melo, che è il signor Nicoletti, sentiamo. No, no, questa è veramente buona. Sentiamo un attimo Imelde da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie. Io quello che vorrei dire è questo. Credo che le nuove tecnologie non abbiano una grande colpa. Sì? È sempre l'uomo che ha la colpa. E qui chiamerei in causa anche, soprattutto, certa stampa, sì, certa televisione. Ah, non c'è dubbio. Che comunicano veramente in un modo dove le barriere sono veramente basse basse. Sì. Basta sentire la trasmissione anche di Radio 24, quella del pomeriggio tardi, dove togliono non solo le parolacce, no, anche le tolgono e il peggio dell'animo umano. Sì, un po' sì. Imelde da Bergamo. Imelde. Io mi ricordo Imelda Marcos. Ah, anche come no, certo, è un'altra Imelda cosa. Imelda Marcos. È un'altra cosa. Imelde, che cazzo di nome è? Questa è una. Comunque, povera. Nicola da Trento, dai, Nicola. Ecco, Nicola da per, Trento, vai. Giusto per tenere sveglia. Vai, Nicola, dimmi. Allora ci sta il dileggio a chi ha una cadenza sul tirolese. Ci sta il dileggio dell'autonomia. Anche se sono questioni che andrebbero un po' approfondite, ma che c'entra? Ma il punto è molto semplice. Sì, qual è? Una baita da noi, sì, in una zona di slavine, non diventava un albergo. Ma punto. Non è vero, è ma non è vero, ma non è vero, non è si vero. Chiama, è una tradizione del da territorio noi, di amore. Da noi una baita non diventa albergo. Da noi una baita non diventa. A parte che è successo una marea di anni fa. Una marea di anni fa. Ma adesso non stiamo a discutere, pare che. Sì, però Nicola, cosa vuoi dire? Scusa, non ho capito. Che voglio quell'albergo non ci doveva essere. Voglio dire che no, ma che. No, ma lui non voleva dire questo, non voleva dire che non sarebbe stato costruito l'albergo. Messner voleva dire che il sistema di emergenza in Trentino, in Sud Tirolo, esso che è molto più forte, esso che è molto più forte, sistema di sicurezza. No, e allora non sarebbero morti, no, non sarebbe successo nulla. Noi in Sud Tirolo essere più forti, essere più fighi, essere più bravi, non essere terroni. Non essere terroni come lì in Abruzzo, capito? Io non credo che lui volesse dire solo questo. Ma ragazzi, ma che le cose funzionino meglio in generale, non c'è dubbio. No, ma non è funzionare. Ma non voleva dire solo questo. Il rispetto del territorio, che qui per tradizione c'è, non è che sono criminali gli altri, è che qui si rispetta di più la montagna per tradizione millenaria. Tutto qui. Sì, questo ma questo può essere vero in assoluto quello che dici tu, caro, caro Nicola, però con quello che è successo non c'entra una mazza, cioè non c'entra veramente una stramazza. Lui ha parlato anche di elicotteri che vanno, tolgono la neve subito, no, eccetera, questo, eccetera. Ma è quella la cosa, quella la roba, dai. Qui non mi trovo. Però vabbè, Nicola non, da Pescara, non mi sottovalutate pure questo. No, Nicola da Pescara, ma chi dice che non funzionano le cose? Ma gli mai dire una banalità, siccome Messner non dovrebbe dire banalità, se invece mi dice che l'emergenza viene gestita meglio in Trentino rispetto alla tragedia di Enrico Piano, dice una puttanata, secondo me, Nicola da Pescara. No, ma dice una cosa inopportuna ma vera, cioè è vero che lì funziona, dai, a me su, ma non dai, è vero che si sarebbero salvati, dai, su, non dire stupidaggini, ho dai. Detto inopportuna perché non è opportuno, ma è vero che lì i sistemi sono molto più efficienti che in altre parti d'Italia, ma questo non, voglio dire, ma non me ne frega niente. Nicola da Pescara, dai. Ciao, due Nicola di fila. Dimmi. Senti, allora, prima di parlare di Sgarbi, quindi ti devo dire una cosa, però parliamo un attimo dei soldini. Mi posso agganciare a quello che hai detto prima, al fatto che tu non fai le cose per soldi. Questo si capisce perché non li spendi. Cioè, sei talmente scagno ormai. Invece il tuo amico Parenzo le spende in church, in camicie di pregio, come si vede in televisione. Una volta Parenzo che spenda almeno i soldi che guadagna. Beh, certo, io 500 euro per un paio di scarpe, lo sappiamo, però dai, non è un reato. No, ma io non spendo 500 euro per un paio di scarpe. Parenzo sì, spende 500 euro per un paio di scarpe. Ma perché dovete fare i conti in tasca a me? Scusa, hai speso qualche volta 500 euro? 500 euro per un paio di scarpe, l'hai spesa qualche volta? Se vuoi sapere, io le compro in saldo. Sono 800 euro, 700 euro. Non ne frega niente, ma mi dovete rompere le scatole? Dai, a me su come mi vesto io, ma ti rendi che conto? Vuoi, Nicola? Dimmi. Senta, ma che razza, allora, di roba due è? Due giorni fa ti ha chiamato un ragazzo che parlava del tuo rapporto particolare con Vittorio Sgarbone, come lo chiami. Allora? L'hai trattato maluccio, sto ragazzo cercava, uno da Lecce. Non riusciva, esatto. Non ma poi ha parlato capire. Con Sgarbi stesso, eh? Sì, ha parlato con Sgarbi, ho sentito. Vabbè, allora? Allora, lui diceva che tu lo facevi per odio, non hai capito un cazzo, poverino. E perché cosa? Spiegami. No, tu lo fai, lo tratti bene. Perché ti lecchi anche un po' il culo, diciamo la verità, ma non per avere odio. Hai Parenzo che mi lascio insultare da te, dimmi, dai. Ma sai qual è il vero motivo? Qual è? Ti basta la figa in esubero. Ma la verità è questa. No, non hai capito niente, tutti. Guarda. Ma l'hanno capito tutti gli italiani. Allora, Sgarbone, come D'Annunzio, ha stormi di figa che gli corrono dietro e lui sceglie quali trombare. Beato lui. Il resto a chi la dà? A Parenzo, che ha la moglie buona e poi mi sembra che sia monogamo, così dice, può fare un cazzo. Chiama Cruciani. Ma questo qui deve vedere a quello che succede a casa mia. Ma chi l'ha autorizzato sto miserabile? Comunque non qua? È così, no, non è così. Sei tu, lascia perdere. Non è così, ciao Nico, ciao. Ciao. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La Zanzara. Cruciani, Cruciani, mio marito mi sta rompendo il coglione quei nani, eh. Cruciani. Allora ragazzi, due piccole notiziole, Nola, un terzo dei comunali invece di lavorare al bar o a fare la spesa, indagate 63 persone, un terzo dell'organico del comune, avevano creato i signori a Nola una organizzazione parallela per coprire le assenze e timbrare i badge. Una paura bestiale durante la notte, non riuscivo a dormire, vabbè, manco io, eh. Poi, caro Parenzo, a proposito di Rom... Che ci penso, questo non riesce a dormire per i nani. Cioè, adesso, se uno analizza testualmente la canzone, no, per carità, va bene tutto. Questo non riusciva a dormire perché sognava i nani. Questo è il livello. E questa roba qui è diventata virale per colpa della Zanzara. Ragazzi, il paese è definitivamente affossato, finito, morto. A Baranzate, campo rom di Baranzate. Ecco, notizie. Sì. Sempre quel tweet che è crimini contro gli immigrati. Sì, sai, esatto, che c'è quel sì, coso su Twitter? Quel profilo, sì. Quel profilo, i crimini, bravo, degli, sì, immigrati. Sì. Crimini degli immigrati, dove ogni giorno mettono puttanate, ogni cosa. Dice, l'immigrato ha fatto la bevice. Beh, per forza che non può farlo. Oh, sì, però l'ha fatto su un, sì, albero. Sì, però è bizzarra sta cosa. Controllo nel campo nomadi. Furti, truffe, rapine, evasione, eccetera. Indovina quanti erano i pregiudicati su 83 rom che c'erano là dentro? Probabilmente 82. 67, no, 67. Sei stato troppo pessimista con i tuoi amici rom. 67 su 83 pregiudicati. La percentuale, signori, alla Camera. No, dico alla Camera dei Deputati, la percentuale, no, magari è un po' più bassa. Ah, sei diventato grillino, eh? Improvvisamente per difendere i rom? No, sei diventato improvvisamente grillino. Per pregiudicati chi si intende? Chi ha avuto solo la visita di garanzia o chi ha avuto una sentenza, di primo grado? No, pregiudicati. Perché sennò potremmo andare anche al Comune di Roma, amico mio, molto più vicini a noi, eh? Anche lì, amico mio. Oh, mi hanno nominato prima Sgarbone. Ieri commentava la vicenda di Don Andrea Contin. Di Don Andrea Contin, come sapete, no? I preti maiali. Lasciamo perdere i reati, ci sono, non ci sono, vedremo, induzione alla prostituzione, violenza privata nei confronti di queste sue amanti, le orge, tutti i dettagli. Dovremmo fare ogni giorno i dettagli specifici della vicenda di Contin. Però vedremo, intanto Sgarbi su Contin. No, è disgustoso per la parte di denuncia che avete fatto di quello che fa, gli scambisti, il set pornografico. Un prete così va frustato, sì, va cacciato a pedate. Adesso va frustato il prete, ma dai, su, ma che vuol dire? Dai. Sì, dai. C'è una morbosità nella vita dei preti, ma c'è anche il momento in cui devono sapere come fermarsi. Questo invece non si fermava, era sfrenato. La sfrenatezza è un aggravante di questa mancanza, di questo peccato. È un peccato mortale che vede quello come un morto e non perdonabile. Sai cosa chiedeva il prete a Sgarbi? Così ha riferito. Questi sono preti che per primi non vivono da buoni cristiani. A parte che la sfera sessuale è quella più dubitevole dei comandamenti, perché io ricordo quando ero in collegio, adesso tornerò per commemorare i 50 anni di collegio che ho fatto, siccome non potevo né uccidere né rubare, non potevo fare nulla, mi domandava il prete quante volte, voleva dire quante seghe, sì. Allora io ne scaricavo tre e potevo ricaricare per farmene le altre tre automaticamente. Signor Greco risponde come se fosse un'intervista, sì. Cioè, certo, certamente, certamente. Però ragazzi, Dacia Maraini. Sì, l'ho sentita ieri. Dacia Maraini. Ad Agora 2017. Mio, ha detto. No, immaginavo che tu volessi fare polemica. L'ho sentita. Mio, bravissima, amico. Dacia Maraini, bravissima. Una scrittrice, come sapete, italiana. No, una scrittrice italiana. Una scrittrice. Beh, è una delle più grandi scrittrici io italiane. Io dico solo una scrittrice assieme italiana. Assieme a Moravia e Pasolini. Ma insomma, che è di quella adesso, generazione lì. Cioè, ma non quella... lo so, so solo che non capisce una mazza di queste cose qua, di prostituzione, qua, di donne, di mondo, qua, di come va il mondo. Eccolo qua, non lui capisce una beata arriva lui, mazza. Arriva lui, lo possiamo arriva dire lui. O non lo possiamo dire? No, oppure non lo possiamo Severgnini dire. Si indispettisce, se lo diciamo. Io mi indispettisco perché stai dicendo una cosa cialtrona, stai dicendo. Come no, non capisce solito una mazza di come funziona la società, non sa, non conosce, non sa, sta lì nei suoi libri, nelle sue biblioteche, nei suoi romanzi, nelle sue cose chiuse in casa, non sa come funzionano le mignotte, la prostituzione, i camionisti, la strada, non sa, e pontifica dicendo che cosa? Il problema della prostituzione e la sessualità maschile. Beh, certamente. Di che stiamo parlando? Che vuol dire? Non vuol dire niente. Vuol dire che voi maschietti. Voi, perché tu che sei. No, maschietto, certo. Però voi maschietti che sei. Questo bisogno. Stai facendo coming out. Stai facendo coming out. Eccolo, adesso libero domani. Parenzo, shock. No, assolutamente, tutt'altro. Anzi, sono un amante della gnocca, la potenza. Ma voglio dire, no, perché sono libero, vedo già domani. Clamoroso. Ma non è vero. Ve lo dico subito, non è vero. Ho detto voi maschietti che avete una libido arrapati, eccessiva, diciamo, arrapati, esattamente, sì, esattamente, sì, voi maschietti arrapati, sì, e che avete bisogno di praticare quella straordinaria arte più di una volta al giorno con più partner diversi, voi che appartenete a questa categoria, non sapete resistere al fatto che se la vostra mogliettina non vi piace più o la vostra amante non vi piace più, andate a pagamento a procurarvi l'amore, oh, e ve ne scandalo, e ve ne fottete fottete, per usare questo scandalo. Termine, ve ne fottete del fatto che quella donna sia in mano alla criminalità, magari sia sfruttata dai magnaccia. Questo non è compito punto. Mio, non è compito questo nostro, delle no, persone come normali. Come quando compri della merce rubata, se vuoi paragonare il corpo della donna a una merce, no, non dire cosa stronzate, che secondo me dai. Non è. Siccome il corpo della donna non è una merce, così come quando compri merce rubata commetti un reato, mia, perché sei complice di che un bestialità. Reato. Sì, David, quando tu compri una cosa rubata. Ci vorrebbe Mughini qua, David. No, è inutile che lo chiami, che quel no. regista. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ecco, vabbè, questo è il Dascia commento. Maraini, sentiamo intanto, sentiamo. Voglio dire, il problema non sono le prostitute, sono è la sessualità maschile in una società che non riesce a vivere una sessualità sana, felice, insomma, reciproca, non basata sull'acquisto. Mamma mia, io quando sento questa cosa vado ai matti. Sull'acquisto, perché c'è giusto, ha perfettamente una ragione. Una banalità totale. Beh no, è ovvio, assoluta. È il corpo ridotto a una merce. Una banalità evidente. Talmente ma no, ma sarà banale, ma è così però. Ma sarà dai, banale su, ah, il corpo ma cosa non è una merce quando dire? Lo compri. Ma esiste da mille anni la prostituzione, e che vuol dire? Non rompete i coglioni. Ma che vuol dire, dai. Anche i servi della gleba esistevano, eppure non era una cosa no, straordinaria. La sessualità comprata è il comprata, veleno certo. della società. Beh, c'ha ragione Dacia, ottimo. Si compra, si è deve pensare che comunità. Tutto si deve comprare e vendere. Questa è forse la cosa, è il veleno più terribile che si è inoculato nella nostra società. Però poi dice una cosa giusta, anche i preti dovrebbero fare l'amore, sì, questo è vero, questo devo ammettere che su questo c'ha ragione, sono d'accordo con lei. E due persone che si vogliono bene, che si piacciono, possono benissimo fare l'amore, anche un prete, però un sacerdote, anche se poi ha fatto certo. voto di castità, dovrebbe dare un ecco, esempio. Mette sempre la parte, no? Sì però, sì ma, sì beh, ma, sì però. Gli intellettuali sono fatti per distinguere, non per sì. fare un calderone unico. Sono fatti per farti capire, Giovanni per ragionare. Piacenza, sentiamo Giovanni, che è più interessante, ecco, è più interessante ecco, della Maraini. Questa è la trasmissione che mette Giovanni. Sullo stesso piano Giovanni da Piacenza con Stiglitz. Stiglitz no, e Stiglitz. Con la Maraini, con Giovanni la da Piacenza rimane Giovanni da Piacenza, ma che non è Stiglitz. Ma che ti ha fatto? Non mi ha fatto niente, ma non me ne frega nulla di Giovanni da Piacenza, francamente. Perché preferisco confrontarmi con gente più intelligente di me, ma non con ne Giovanni da Piacenza, Matteo da Milano, Luigi da Udine, Salvatore da Reggio Emilia. Non me ne frega ne nulla sai, di Giovanni, questi qua. Che ne sai niente, che è meno intelligente di te? Niente, Stiglitz, cioè l'opinione, no, avete siete grillini nell'anima, per cui l'opinione di Di Battista, più snob del mondo, l'opinione di Di Battista non vale quanto quella di Stiglitz. Ma perché Stiglitz sei e Stiglitz, Di Battista e Di Battista, hai capito? E non è paragonabile. Giovanni Stiglitz e Stiglitz. Ma che sta fatto fine. Veronesi e Veronesi, non è Di Battista, Di Maio, non c'entra niente. Ma che c'entra? Di Maio non può parlare di vaccini. Sei impazzito, è impazzito. Sì, vado Giovanni via. Da Piacenza. 19:44 vado ma via. Ma no, sì, come cacciare che devo via sempre le trasmissioni, vado via. Giovanni. Ha smesso di curarsi, Parenzo, dai, ha smesso di curarsi. Probabilmente c'è già quello che voglio dire. Quindi no, non sappiamo, non sappiamo nulla. No, probabilmente lo sa lui, l'avrà percepito. No, voglio dire una cosa, io intanto essere definito maschietto da Parenzo, voglio dire, cioè la cosa mi dà un po' fastidio. Quelli che ascoltano la Zanzara siamo maschi, maschietto tutto al più, no, sarà lui in base ai ragionamenti che fa. Maschietto comunque, con una sessualità anche un po' compromessa, ma la sua. No, ma proprio come ma che ne sai? Questo è da vedere. Dai, guardi, io senti, io sono felicemente sposato, però tranquillamente sarei per aprire le case chiuse, perché potremmo aprire un discorso, ma non era questo l'argomento. Vabbè, ma ogni tanto puoi dirlo tranquillamente, sei sposato ogni tanto vai a Mignotte, non c'è problema. No, lo puoi anche dire, non c'è problema, come sai? Anche dire quando sua moglie l'ascolta, così l'ascolta. Torna a casa, una persona totalmente distinta. Se io andassi a Mignotte, tranquillamente direi: guarda, quindi, tranquillamente, no, ma non è questo. Vabbè, che volevi dire? Che scusami, Giovanni. Non lo farò mai, per carità. Giovanni, dimmi. Che... una cosa che lo faccio. No, io chiamavo per una cosa: chiamavo a proposito del ragazzo che si è suicidato. Sembra a che Venezia. Sia suicidato a Venezia. Sì. Sembra che sia suicidato. Allora, intanto io parto da una cosa e credo che il suicidio sia una delle ultime forme di libertà e uno lo deve poter fare, nessuno gli deve rompere i coglioni se decidi di morire. Perché c'è un sacco di gente che muore in un sacco di posti da sole e nessuno se ne occupa, che muore per una serie di motivi. Quindi se uno decide di venire a morire a Venezia buttandosi in mare a Venezia, quindi io credo che si debba buttare. Però la cosa che mi fa girare i gabbasisi è questa: ma perché, voglio dire, dobbiamo dire che siamo razzisti solo perché gente lì non si è buttata, non l'ha presa, non l'ha vista, non lo so come sono andate le cose, ma siamo sicuri che se questo fosse stato un islandese qualcuno si sarebbe tuffato? Secondo me, secondo me non si sarebbe buttato nessuno lo stesso. No, ma poi volevo dire una cosa, Parenzo magari la pensa diversamente. No, però Parenzo, no, aspetti, voglio dire una cosa su Parenzo, adesso io non mi ricordo quanto tempo fa avete detto le cose, io ho sentito dire delle cose sul Napoli e sui napoletani che se non era razzismo ci somigliava tanto, vuol dire, tipo? Tipo? Ma guarda, non me lo ricordo perché Se non te lo ricordi allora che lo dice allora, no, però lui, ma guarda, io potrei recuperare col podcast delle trasmissioni, vabbè, il podcast un po' di tempo questo... fa. No, quindi lui si era incazzato terribilmente col Napoli, con i napoletani, non mi ricordo che cosa. Vabbè, Giovanni, ciao, ce non lo sai, ciao. Allora ragazzi, uno dei commenti che ho letto sul Corriere del Veneto, se non sbaglio, no? Sul Corriere del Veneto, sulla vicenda del tizio del Gambia che si è buttato e sembra si sia suicidato nel Canal Grande a Venezia, profugo si lancia e muore, nessuno tenta di salvarlo, dunque le accuse eccetera. Uno dei signori, caro Parenzo, si chiama, fammelo andare a recuperare, eccolo qui, si chiama Alessio Di Marco, il quale ha commentato: uno di meno sulla terra. Dopo lungo ed intenso lavoro ci siamo procurati il numero di telefono. Alessio Di Marco, bisogna dire nome e cognomi pubblicamente, questo ha scritto sul sito di un giornale, sul sito Alessio Di Marco, uno meno sulla terra, così ha scritto, per essere precisi. Alessio, io non so di dove è, di dove non è, non me ne frega un cazzo, però sentiamo. Pronto? Sì, Alessio? E chi è? Sì, pronto, Alessio, sono Giuseppe, ciao. Giuseppe chi? Giuseppe, dai. Non so chi sia. Alessio, allora, hai scritto uno di meno sulla terra? Sì, ma come fai a avere il mio numero, scusa? Hai scritto uno di meno sulla terra a proposito di quello annegato o no? Ma quello si è buttato, ma chi sei? No, ma hai scritto uno di meno sulla terra, sì o no? Scusami, tu chi sei? Io sono Giuseppe. E io David, ciao, buonasera. Come stai? Bene. Hai scritto uno di meno sulla terra o no? Ti sei ammazzato, quindi. Ma non sei ammazzato? Non perché sei ammazzato? Si è buttato, che cazzo ha fatto, non lo so. Ma perché sei contento che è morto? Profughi che in Italia non li voglio. Italia agli italiani. Stop. Sì, ho capito, ma quello là è morto. Cosa? È morto, aspetta, è morto annegato. Figlioli, nella vita purtroppo mi dispiace per lui. Cioè no, non è che non ti dispiace, sei contento che è morto. Se hai scritto uno meno sulla terra, sei contento. Io non so chi sei, comunque la chiudo qua la situazione. No, ma scusa Nato, abbi il coraggio di ripetere quello che hai detto, scusami, perché uno non è che puoi scrivere e poi puoi scappare così. Scusami. Intanto non so con chi sto parlando, non so. Ma chi? Cioè... Parenzo. Cruciani, Parenzo, conosci? No. No, e vabbè, non fa niente. Ma vaffanculo, ma comunque a parte questo, la questione è questa. Si sposti. No, però scusami Alessio, no, sei contento o no che è morto questo? Dici... Di pazienza, ma non ti devo. Io non sono legato a rispondere. Ma no, non sei, hai scritto una cosa. Hai scritto una cosa pubblica. Io non sono costretto a rispondere, se non sono legato a risponderti, punto. Scusami, va bene così. Hai scritto pubblicamente su Facebook: uno di meno sulla terra. Oh, una cosa chiara, limpida. Ti stanno sul cazzo gli immigrati. Certo che sì. E perché ti stanno sul cazzo? Perché non ce li voglio. D'accordo. Ma da cosa fanno? Dunque, se muore uno in mare, sei contento? Senti, io sono una persona che paga le tasse e fa tutto quanto. Va bene, questo va bene, poi? Purtroppo ci sono anche loro, io non l'accetto, sono diventato razzista ultimamente, ma non capisco dove sei il problema, perché mi stai chiamando, non so, cioè... Scusa, hai scritto una cosa su Facebook, sì o no? E Ari 2, sì! Quindi... E allora uno si prende responsabilità di quello che dice, se hai scritto uno di meno sulla terra, noi ti chiamiamo per sapere come la pensi, mi sembra abbastanza chiaro come la pensi, ti stanno sui coglioni i negri che vengono in Italia. Guarda, io fino a poco tempo fa eri di sinistra? Non sono mai, no, io non ho mai avuto alla fine un'inclinazione destra o sinistra. Però okay? Adesso c'è l'invasione, dici? Però ce n'è troppi ora, davvero. Però dunque, se vedi uno dentro l'acqua che sta morendo, che è morto dentro l'acqua, dici vabbè, uno di meno non fa niente, o no? Quello magari no. Ma come no? L'hai però... scritto? Come magari no? Scusa, che dici come magari no? Cioè, perché adesso allora, dici... Allora, ascoltami, ma sto parlando con te, non so nemmeno che tu... Vai, ciao, arrivederci. Ma che te ne frega, scusa, ma perché? Che te ne importa? Telefonata numero 2, caro Parenzo. Numero 2, vai in azione. In azione, Parenzo, sentite. Pronto? Scusami, facciamo a capirci. Perché quella frase? Perdonami, ma io io sono in ufficio e sto lavorando. Scusami un attimo, adesso ho capito. Sono Parenzo. Allora, ricominciamo da zero. Chiedo scusa. Sono Parenzo. Puoi spiegare perché hai scritto quella frase su Facebook e ora non hai neanche il coraggio di ripeterla? Ma io tanto, io ti ripeto, io non parlo con le, non parlo con le persone che non conosco. E poi non si chiude il telefono in faccia della gente educata come noi. Cioè, non hai ragione, cosa, ascoltami, ascoltami. È una cosa che non si fa, cazzo. Io sono al lavoro. Ma tu sei un maleducato razzista. Ma come si fa a chiudere il telefono in faccia? Ascolta, io sarò quello che vuoi, sarò quello che ti pare. Sono al lavoro. Maleducato. Però scusami, dove sei Davide, al lavoro? Davide. Nel terzo Reich, al Ku Klux Klan, dove no, sei al lavoro? Dai, era così, no. No, però no? Alessio, però hai i coglioni di ripetere. Hai sbagliato tu, Davide, perché in realtà lui ha i coglioni di ripetere esattamente quello che ha scritto. Cioè, non è uno che si tira indietro, giusto, Alessio? Ma tu ti incazzi per quale motivo? Mo la devi smettere, ok? Arrivederci. Aspetta, fermo. Oh. Ma con chi ma stai cosa parlando? Chiudi? Alessio Di Marco. Ecco, vabbè. Questo qui fa un ragionamento strano. Dice: pago le tasse, quindi posso essere razzista. È curioso come però sillogismo. Questo qua non è uno che sillogismo. Ah, scusate, ho usato una parola complicata. Andate su Google, sillogismo. Mamma mia, come sei, hai questo senso di superiorità. No, no, assolutamente. Ti senti perché? Superiore a Donato, no! Da Varese, per esempio. A questo sicuro. No, ma scusami, ma come Stiglitz si sentirà superiore a me, Stiglitz, a Di Battista? Che coglioni, certo, però. Certo, come lui si sentirà, perché chi sa di più? Allora, Stiglitz può essere messo Nobel per l'economia, il suo parere può valere quanto quello sì, di Di Maio? Sì, assolutamente. Sì, in termini di democrazia sì, votano entrambi, ma in termini di sapere è confrontato. No, la rete, lo decide la rete, ma quale rete? Fabio da Modena, dite? Fabio. Ecco, un altro, ciao Cruciani, beh, io volevo sapere solamente una cosa. Guarda. Abbiamo parlato, sentivo questa notizia che dicevi tu del ragazzo che si è gettato. Sì. Allora, oggi, siccome io sono vittima di TG24, quindi sento, che senso oggi, sei vittima? Dice, non ho capito. Nel senso, vittima nel senso che siccome per adesso sono a casa con l'infanzia, ho sentito tutta la giornata di Radio 24 in un modo o nell'altro e sentivo la notizia di quale diceva che i marinai avevano gettato i salvagenti, come dicevi qualcuno tu. Qualcuno ha buttato i salvagenti, esatto. Sì. Però non avevano l'obbligo di salvare il probabile suicida. Che significa non avere l'obbligo? Me lo spieghi? Cioè, non lo so, lo senti, ma ragazzi, o non lo senti di salvare qualcuno? Sì. Bene. Ma allora, il concetto dell'avere l'obbligo significa che se qualcuno ti dice tu non devi salvare qualcuno, tu non lo salvi? Non lo so, no, ma io sentivo, non so se fosse possibile salvare questo qua. Tu dici che hanno dato dei razzisti a... E poi sentivo, dai, si sentiva almeno alla radio, i commenti delle persone che filmavano, lo chiamavano Ehi Negretto, cioè, non saprei. Poi volevo dirti un'altra non cosa, saprei che cosa. Posso permettere. Non saprei cosa. Non saprei, dico, se ci fosse stata dall'altra parte un'altra persona al posto di un Negretto, se avrebbero salvato o meno. Io me lo chiedo. Posso se chiedermelo? Te lo chiedi, chiedilo a qualcun altro, che lo chiedi a noi. Lo chiedo perché probabilmente stiamo diventando un popolo di razzisti. Quindi è probabile. E questo ha ragione su questo. Ma no, ma poi dai, su qualche, qualcuno poi avrà fatto dei commenti assurdi. Ma chi è che si butta a salvare? Sì, qualcuno si può buttare, ma evidentemente non lo so. Boh, cioè non si può attribuire, come dire, alle persone che erano lì una responsabilità perché non si sono, buttati a salvare quel tizio. Dai. Beh, c'è anche non ha buttati a salvare, c'è l'omissione di soccorso. No, ma non voglio dire questo. Cioè, oltre a ricordare, come hai fatto bene a ricordarlo tu, c'è l'obbligo però di fare una telefonata, magari urlare. No, uno ma non è che si deve hanno buttare buttato dei salvagenti. Quello si voleva suicidare. Se uno si vuole suicidare, si vuole suicidare. Perché danno dei razzisti a delle persone mentre quello pare che si volesse suicidare? No, razzisti, scusa, sono i commenti che abbiamo sentito prima. Sì. Assolutamente sì. Vabbè, Enrico Monza, dai Enrico. Pronto? Dimmi Enrico, dimmi. Posso parlare? Posso dire una cosa a Lorenzo? Sì, dilla, chi dilla, è dilla. Qui? Enrico, no, però Gustavo deve fare mettere una scuola. No, però aspetta, si sente male, Enrico, però si sente a telefonare prima. Dai, aggiusta quello che devi aggiustare, dai, mettiti in una zona più degna di questo. Sono benissimo, no. Sono in una zona benissimo. Oh, dimmi, sono in una zona con una canna in mano. Quando hai iniziato a farti questa canna? Quando mi ha chiamato la signorina. Quando ti ha chiamato la signorina? Quasi. Com'è? Che roba è? Dove l'hai comprata? Erba calabrese, produzione propria. Ah, se la fa a casa buono, questo è buono. Dunque, lo dice così in diretta. Produci da solo? Produci da solo? Sì, sono asmatico e mi fa bene una pianta. Molto bene, una pianta di marijuana, roba calabrese? Sì. Sì, ma che la porti a Monza? Perché calabrese? Stai a Monza? Che cazzo vuol dire? È perché io viaggio. Sono non ho capito, ti porti, sei un pescivendolo, tu prendi praticamente, hai la pianta in Calabria? Sì. E dunque te la porti poi... No, l'essicco, no, la faccio essiccare. In Calabria? Mi preparo 5-6 cannette per il viaggio. Sì. E mi avvio. Beh, qui siamo al top, Parenzo. Vabbè, siamo un racconto di vita. Beh, fermo, un racconto. Bene. Che ti fa? Che effetto ti fa? Aspetta, adesso c'è la pubblicità. Bello, mi rilassa, bello. Ah, che bello. Non vabbè. Mi ubriaca, non mi niente, mi fa ragionare bene. Beh, ti fa ragionare bene, adesso quello bisogna questo vedere. Questo lo verifichiamo tra poco. Ti annebbia un po'. Quante te ne fai? Un paio al giorno te ne fai? Due al giorno. Due al giorno, ma scusa, ma guidi anche? Quando me la faccio, no, mica sono un pazzo. Ah, beh, questo è importante. Adesso che sono in albergo, bello, pulito, sistemato, sento la radio e mi faccio la canna. Enrico, aspetta un attimo, aspetta lì con la canna, tranquillo, rilassato. Basta sentire la trasmissione anche di Radio 24, quella del pomeriggio tardi. Il peggio del peggio dell'animo umano. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. La zanzara. Non avete capito un cazzo! Non avete capito un cazzo! Uno dei più grandi format televisivi, Li Brandi contro tutti, contro i terremotati, contro gli immigrati, contro chiunque, no, gli immigrati no, cioè, contro i pensionati. Li Brandi contro tutti, ottimo. Li Brandi contro tutti. Perfetto. Se un parlamentare pagato dagli italiani dice agli italiani ci sono le tende, caro Li Brandi, vada lei nelle tende, vada lei nelle tende a pagare le cooperative 87 milioni per ospitare i finti profughi, valori che mangiano pane a tradimento clandestini, caro Li Brandi, vada lei nelle tende e si vergogni, perché la realtà è che i veri profughi sono gli italiani, italiani che avete lasciati in mezzo alla neve, fatemi vedere Conetta nei terremoti, vergognatevi. Fatemi vedere Conetta. Collegamento da Conetta con gente incazzatissima, naturalmente, no? Criminale, assassino! Comunicazione di servizio alle 20:30. Quello era Morelli. Ospite speciale qui in studio chi a Roma. È, chi è? No, non lo sai neanche tu. È un ospite speciale che ti ho convocato in studio alle 20:30. È un ospite speciale. Ma qui è tutto preparato bene, tutto a cosa puntino, vuoi tutto. Ah, trasmissione preparata allora. Ma no, preparata, nel senso immaginata. Dai. E ogni tanto c'è il cigno nero, come dicono in economia. Imprevisto. Quello era... E tu avrai alle 20:30 l'imprevisto. Vabbè, quello era Morelli, adesso contro la gente di Norcia, contro chiunque. Dai, Li Brandi è già contro qua tutti. L'ospite, comunque, ma te lo faccio entrare alle 20:30, ma è già qua. Sì. Li Brandi ce l'ha col governo, insomma. Dice, non ci hanno aiutato. La capisco la signora. Ma dell'esasperazione. Mettiamo che se dalla signora gli faccio dire altre cose. C'è lì quel fenomeno lì del presentatore che gli fa dire quello che vuole. Mia figlia! Ma ce l'ha il presentatore? Che l'ha convinto e gli spiego che il governo c'è. E che lei prende la pensione e che vive e sopravvive e che arrivano gli interventi e arrivano gli aiuti perché c'è un governo. Io credo... Le voci da Norcia incazzate con gli immigrati. Quanto ti piacciono le voci arrabbiate? Boh, perché sono costruite apposta contro, naturalmente. Noi siamo qui, terremoto, mentre gli immigrati 35 euro, 40 euro al giorno. Io gli sto a dire che una ditta in Altitalia costruisce 4 casette al giorno. Lì è la voglia che non ci avete da mandarle. Compratele, mandatele, vedrai che risolverete tutto. Stia tranquilla, signora, stanno arrivando le case. Lei le ha viste che stanno quando arrivando? Quando è finito il tempo delle promesse? È vero che ci sono, mi hanno raccontato che in realtà si possono costruire le casette in un tempo molto breve, poi la burocrazia blocca tutto. Qualche giorno fa un mio amico mi diceva che per esempio in grandi supermercati degli... Che c'è, Parenzo? Che c'è? Perché ridi? Che ridi? Che cazzo ridi? Ci senti o no? Sì, sento. Senti o no? Le voci... Tu senti? Sì, sì, sento, sento. Allora saluta solo qua un attimo, di solo, saluta solo un attimo. Chi è? Ciao Cruciani. Chi è? Ciao Cruciani, non lo riconosco. Vabbè, se scopri Beppe, non rompere i coglioni, è il piacere. Ma che è Vissani, Giovertà! Oh, il super chef con le sue barzellette, amico mio, deve finire, devono chiudere questa trasmissione. Oh, lo faccio perché voglio che la trasmissione venga chiusa, capito? È qua, è qua. Elegantissimo con queste scarpette scarpe rosse. Sì, certo. È qua, salutalo. Giafra, come stai? Ecco. Giafra, sei numero uno, che c'hai? No, senti, ascoltami. Quanto ti fanno schifo i vegani? Dimmi subito, quanto ti fanno schifo? Ascoltami, sono veramente... Sì. No, ma sì. Non è che fanno schifo, rompono. Rompono i coglioni, dai, rompono i coglioni, però ti voglio dire, ascoltami. Dimmi. Ma perché non sei venuto mai a... Ti invito, non vieni mai alla festa. Sì, ma siamo in diretta. Però. Amico mio, lo so, va bene, va benissimo. Cazzo, mica vengo. Radio Vizzani. Questo. No, però, scusami, Giafra, però... No, ma è Radio Vissani. In questo momento è Radio Vissani. Voleva fare una comunicazione. Voleva dire che non gli piacciono più le donne, vero? È vero, guarda, sono diventato gay. Ma sei pieno. Ma sei, ci sono donne che mi dicono che tu mandi messaggi e vuoi rimorchiare tutte quelle che incontri, dalla prima all'ultima. È vero, guarda. Ti giuro, incrocio. Sono affamato. Cosa dice? È vero. È vero. Ho perso parecchio tempo, capito? Appunto, ma lo so, questo qua. Ma è ottima questa cosa qua. Spero che. T'hanno visto, per esempio, recentemente mi hanno detto a Torino con una fidanzata bellissima. Mi hanno detto con una molto carina a Torino, è vero o no? A Torino? Sì, a Torino, sei andato con una a Torino o no? Ma ti sei sbagliato? Ma quanto ti piace la figa, Giafra? Dimmi la verità. Tanto, basta però, sta rompendo i coglioni, basta. Quanto ti piace? Quanto ti piace? Tanto, tantissimo. Allora, io volevo chiedere, Vissari, cosa pensi della sentenza della Corte Costituzionale? Senti, ma... Ma che gli frega della Corte Costituzionale? La dai, Corte su. Costituzionale ha avuto il botto? Che botto? Sì, che botto, che botto ha avuto? Hanno fatto bene le cose. Ma non lo sappiamo. Renzi è rientrato nel potere esecutivo. Ma chi? Renzi. Ma Renzi che c'è? Renzi dice che è contento, che bisogna andare a votare subito. Per te bisogna votare subito, no? Ecco il grande sì. Interrogativo di queste ascoltami, ore. Ascoltami, questo sì. Fa interesse sì. Sicuramente ai partiti, non a me. A me non mi interessa niente. A te ti piace solo la figa. Dai. Ma se un gay... Basta con sta topa! Ma se un gay ti mette le mani addosso, che fai sì. Tu? Hai dico. Caro, come sei bravo, continua. Allora, tra poco, preparati una barzelletta, una non eccessiva, perché altrimenti ci chiudono definitivamente. No. Ma allora, dicono scusa. Che, però, scusa, dicono che i vegani scopano meglio. Si dice che i vegani lo fanno meglio. Ascoltami. Dicono loro. Li possiamo mettere anche al gioco del palo. Cioè? Questa sia una volgarità questa. No, ma dimmi non qual è la farei ripetere. No, dimmi qual è il gioco del palo. Ma io perché ma qual è il gioco del palo? Ascoltami, non frenare, la sapevi quella barzelletta? Dicendo... qual è la barzelletta del gioco del palo? Spera. Allora, scusa, c'è una coppia, purtroppo vivono sotto un ponte, sono disagiati, non hanno soldi. Sì. A un certo punto lei sta male, deve essere operata immediatamente di cuore. Oh, mamma. Sì. Allora a un certo punto corre in ospedale, dice, sì. Scusi, dice subito in sala operatoria. Sì. Passa un'ora, 5 ore, 12 ore, 24 ore, 36 ore, esce fuori il professore, chi è Gaetano? Sono io, professore. Dice, un'operazione difficilissima, un'operazione delicatissima. Lei non può capire quanto è stata difficile questa operazione. Le consiglio di portarla a Houston con $300,000, può risestimare sua moglie. Poi, se per caso crede di sestimarla ancora, con 300.000 franchi la porti in Svizzera. E poi su una clinica di riposo in Italia, senza nessun problema, con 300.000 euro. Allora, questo l'ha sbiancato. Allora il professore, sto scherzando, è morta! Ezzo! Gianfranco Vissani è qua. Mito, una leggenda, è qua. Ragazzi, ecco, lui chiedeva, vorrebbe fare una rubrica, credo fissa, no? Fare un appello, fai l'appello, sì. Qui alla radio della Confindustria, ecco, per cortesia facciamo, sì. Una rubrica pagato, però è chiaro, cioè, sì. ma che è gratis, eh? Beh, no, io sono d'accordo con te, ma se sei ricchissimo già, Gianfranco, dai, che cazzo, no, ma dai, ma scusa, il lavoro va, allora lui una volta a settimana viene qui, fa una ricetta, facciamo questa trasmissione, io, te e Parenzo in giro per l'Italia, sì, ma ci arrestano dopo tre giorni, questo dopo tre giorni chiudono, no, tutto. Ascolta, no, che cazzo ci arrestano? Lascia perdere. Ma come no? Ci arrestano. No, ascolta, andiamo in queste case, portiamo. Sì. Che marchette facciamo? Io spero che facciano un campo Roma. Io spero che mettano un campo Roma davanti al ristorante tuo, sai? No, ma perché? Sì. Perché io li porto via con le motopale. No, non si può dire. ma non si può. Bravo, bravo, bravo, bravo. Come si fa a tirare la sigla in moto male, dai. Giustissimo. Ma scusa. Ma scusa, perché devono andare a rompere i coglioni davanti a casa di Vissani, davanti al ristorante di Vissani? Ma non ci si può andare, non ci si può andare perché c'è la SS448. Cos'è la SS448? La strada statale, la strada statale. Oh, ma io lui siamo scusa, ho sentito SS, ho detto ma che roba è SS448? Sai, Parenzo è ebreo, caro Vissani, come sai. Lo sappiamo bene. Lo sapete bene, lo sapete bene. Scusa, qual è il cibo, caro Vissani, che è più adatto alla fregna, quella che tu chiami topa? Cioè, per, no, il quello che dà più, quello che si avvicina più al afrodisia. Diciamo, no, le domande fatte bene. Cioè, qual è il cibo che ti, che tu fai? Ah, questo. Per esempio, la frittura di piccoli straccetti, quei calamaretti piccoli. Sì, quello è buono. Tu, e infatti, se tu li mangi. Sì. Anche croccanti, ma non molto. Sì, poi sì. Vedi che le donne si vanno a pulire il dito subito in bocca. Dai, ma dove si in che senso? Scusa, perché? Perché? Ma perché? Non si può. Perché ma dici maestro, ma perché certo, fanno così? Perché li eccita. Ah, eccitante, cosa? Molto eccitante questa cosa. Sì, molto il calamaretto piccolo oppure l'osse che vanno a fare. Capito? Ma tu però non eri Giafra, tu prima non eri così. Questa è la realtà. Quando è che sei diventato un maiale? No, cioè, ma questo è il punto. Io maiale. Sì, tu sei io maiale. No, ma da quando è che sei diventato? Io sono innocente come una pecora. Un per gourmet, piacere. un gourmet della figa. Da quando è che sei diventato un grande un appassionato? Della figa, ma beh, sì, un grande appassionato. Ragazzi, ragazzi, bisogna dire le cose. Perché non bisogna ammetterlo? Parliamo bisogna ammetterlo chiaramente. Vissani è un grandissimo appassionato della materia. Ma non c'è niente di strano, non c'è niente di male. Un cultore della materia. Ma è normale che sia così. Ma volevo chiederle questo, chef. Ci sono alcuni cibi che magari possono aiutare anche l'attività sessuale. L'attività sessuale dei cibi afrodisiaci potrebbe. Sì, dire però non diciamo stronzate. Il tartufo bianco, i gamberi, le ostriche. No, non è vero niente. Non sono prima afrodisiaci. Tutto tu a cospetto della tua donna devi vedere le motivazioni che stai dando a quella donna. Sì, cioè, per esempio, no, non fate piedino, che è una cosa volgare. No, mettete direttamente la mano dentro la figa. Ma che roba è? Ma è una roba scandalosa, bisogna essere, bisogna, capito, dargli per esempio l'ostrica, prenderla. Sì. Imboccarla, dice. Ecco, cioè, capito? Basta. Ah, vabbè, adesso. Questo imboccare l'ostrica è una roba che si faceva già negli anni 50. Regalare un po' di rose rosse. Vabbè, questo, capito. Quante? 100 almeno, no, bisogna. Beh, se vale la pena anche 1000. Mille. Sì, però la realtà è questa. A 6 euro a no, mi scrivono, botta, scusa, però. Scusa, Giafra, mi scrivono. Sono 6.000 euro. Mi scrivono da quando hai mai regalato 6.000 euro di rose rosse? No, tu? L'ho sentito da. Tu quanto hai regalato di rose rosse? Ma 24. Ma sì. Da quando hai iniziato a frequentare Sgarbi è diventato un maiale, così mi scrivono. No, Vittorio, per cortesia, è su una parallela con me. In che senso? Viaggiano insieme. I paralleli del treno viaggiano insieme, ma non si toccano mai. Quindi non mi fate concorrenza, questo no, ma perché lui dovremmo fare questa bellissima trasmissione che lui lui parla di cultura e io parlo di cibo nel territorio italiano. Guarda, sarebbe bellissimo. Bella, dove la fate questa? Noi la dovremmo fare su anche su Radio 24, potremmo fare. Al posto della zanzara, sarebbe interessante da fare. No, al posto della zanzara, ma che sei scemo? No, scusami, ma no, facciamo alle 9 di mattina, dai, su alle 9, che ne so, alle 9 di mattina, alle 9 o alle 10, sì, alle 9. Sì, cambiamo tutto il palinsesto, ma che ce frega? Alle 9, dalle 9 alle 11, ottimo. Al posto della radio, al posto della zanzara, in prime time. Che c'è Giafra, dimmi. Dove sta? Dove sta lui? A Milano. A Milano, stai alla radio, fratello mio. Ma non sapevo, pensavo stasse qui con te. Ma stesse. Andiamo a cena poi dopo noi, no? Sì. Ma non ci chiudiamo sto. Prima, dai, 24 dobbiamo, andare, cena dobbiamo andare a cena. Ma dove? Dove? Ma che ti frega te da noi? Ti posso chiedere una cosa, Giafra? Siccome molte persone famose hanno rifiutato di andare, si sono rifiutate di andare da Trump. Bravo, sì, se giusto. Trump ti chiamasse per andare a cucinare, tu ci andresti bravo. Di corsa, io sì, perché? No, appunto, tu sei uomo di sinistra. Ma che razzista? Ma come che cazzo mi frega? Ma ha ragione. Se mi chiama, ascolta, se mi chiama, a parte che mi ha chiamato anche. Chi ti ha chiamato? Hollande. No. La Merkel. Hillary. Hillary Clinton. Che ti ha chiamato? Bravo. No, Hillary, come si chiama? No, Bill. Però ti voglio dire. Ah, Bill Clinton. Ma ci andresti di corsa o no? Ci andresti per conoscere la Lewinsky, ci andresti? No, ma la Lewinsky? Sapevi la barzelletta Lewinsky? No, qual è? Dimmi. Ho paura adesso. Quando a un certo punto ho paura. Bill Clinton stava facendo un convegno nel Medio Oriente. Allora dice, mi raccomando, stringere i denti a lei sotto. Oh, tu no! signor Fissani è il numero uno. Ma io perché ho avuto questa idea? Tu, no, perché non era preparato nulla, confermi, no? È stata la cosa, credo, più bella che hai fatto negli ultimi tre anni. Tre anni, tre anni. Guarda, Fermo che c'è la pubblicità. Meglio. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. La Zanzara. Sono andato all'università, 7:47, e ovviamente si ascoltano i Nani. Non si molla un cazzo, Cruciani, non si molla un cazzo. Allora, alcune cose bisogna ricordarle, caro Parenzo, mentre credo che sia ancora lì con Gianfranco Pissani. Sì, assolutamente. Negli studi di Roma, Renzi, qualche tempo fa, prima della bocciatura, ovviamente adesso, di oggi, della Corte Costituzionale, di una parte dell'Italia, come diceva che questa legge tra 5 anni sarà copiata in mezza Europa. Questo diceva, Renzi, alcune cose bisogna ricordarle. Madre. E bisogna sempre ricordare che i signori Grillini, che prima sparavano a zero contro tutti gli indagati, oggi hanno il sindaco di Roma, il loro principale rappresentante, che è indagato. E questo qua bisogna sempre ricordarlo. Detto questo, lo sai, caro Gianfranco, che Parenzo ha una sua fissazione sul fatto che vuole multare i clienti delle prostitute? Ah, ma, sì, ma ti pare normale a te? Assolutamente. Ma digli qualcosa, digli qualcosa. Vuole multare i clienti, vuole mandare le foto a casa delle mogli, le foto a casa. Sì, se uno va con una prostituta che è spesso sfruttata, che è per strada, è come se comprasse della merce rubata. Ma per digli me. Qualcosa, Gianfranco, dai, su. Se ci sono stato sempre a tempi di Cucurucù, ma qua sei stato tempo di Cucurucù. Ma dimmi che non sei mai stato a Mignotta, che non ci credo. Gianfra, dai, io no, a Mignotta non ci sono mai stato, me l'hanno dato sempre gratis. Beh, ho capito, sì, d'accordo. Vedi, però, vedi, però, ho capito, in qualche bordello in Svizzera, in Germania, non sei mai andato, sai che esistono queste cose, no? Ma sei matto? No. Perché ma, sei matto? Non spende, perché io no? Perché le conquista le donne. Magari tu andavi con una donna che non sapevi, faceva la signora normale, aveva figli, però dopo scoprivi che era a Mignotta, dunque ce n'hai più volentieri. Ma ho capito. Che cazzo vuol dire? Ah, dopo dici. Lo scoprivi dopo, dici. Cosa? Allora sei andato alla fine con qualche Mignotta? No. Ha detto un'altra cosa. No. Qualcuno dice meglio che ha detto. Interpreta tu, Parenzo. No, ma non è che fa l'interprete. Ha detto semplicemente che magari andava con qualche donna, poi scopriva che era sposata e aveva figli, e che andava con molti, quindi comunque senza pagare, però scopriva che era una persona comunque allegra. Ho capito, perché era una persona allegra. Scoprivi che era una Mignotta, allora allegra. Non si capisce perché le donne che sono allegre sono chiamate Mignotte e gli uomini no. Sono dei figli, non ho capito. Effettivamente anche questo è vero. Gli stanno scrivendo un sacco di messaggi per la trasmissione. Benissimo. Scusami, però Gianfra, oggi per chi voteresti te? Oggi, tu che sei sempre stato una di sinistra, oggi per chi voti? Salvini lo voteresti tu? Sì, voteresti. No. Ti piace? Sì, sì. Matteo mi piace, poi lo voteresti? Sì, Matteo lo voterei volentieri, perché ci siamo scambiati due parole a Ballarò e devo dirti che è una persona coi coglioni. Sì, ma anche, scusa, voterei anche, come si chiama, Grillo. Beppe Grillo, eh? Sì. La sinistra no. Guarda Beppe Grillo, D'Alema? Tu, D'Alema pure. Vabbè, ho capito che voteresti tutti. Ma ascolta, non voterei un cazzo, però te voglio dire, ferma, che mi hai dato del gay. No, no, per carità, non è che se mi dai del gay mica mi offendo, No. A te, se te stanno sul cazzo i proci, diciamo la verità. No, assolutamente. Che scherzi. Secondo me sì. A un certo punto, scusami, tu devi sapere una cosa. Beppe Grillo, quello che lui dice, è quello che dico io. E come la penso io? Beh, no, ma non è proprio così, dai. No. Per esempio, fammi un esempio, non ho capito. Ma non so, per esempio, che ti posso dire, tutti i valori che noi abbiamo sull'agricoltura, cioè non c'è, noi non siamo difesi da nessuno. È il nostro, cioè, scusa, ma l'agricoltura, quella poca che abbiamo. Cioè, dice, Grillo è l'unico che difende e tutela gli agricoltori. Vabbè, sì, contro l'Europa. In questo momento l'Europa te fa schifo a te, l'Europa. Beh, io usciresti dall'euro immediatamente tu. Sì. Sì. Ritorno alla lira. Sì, ma ragazzi, come te pagano la lira, ti pagano. Lo so, hai ragione, però cioè, ci in questo sono momento tra Salvini e Grillo chi sceglieresti? Salvini. Grillo, se noi abbiamo un potere di massa scendiamo Grillo, però per me, perché con Salvini ci vorrebbe una persona che gli possa tutelare tutto quello che va in giro, cioè, ci vuole una badante, non ho capito. No, la badante, no. Cioè indirizzarlo un po' meglio, dici tu. Beh, sì. Non lo vedi al governo del paese, dai. Ma è ancora numeri piccoli. Salvini si potrebbe parlare tra 2-3 anni, sicuramente. Cioè, c'è un partito, è ancora un movimento. Senti, ma tu non ti sei incazzato? Sei uno di quelli che si è incazzato per i soccorsi che non sono arrivati, i ritardi, eccetera. Guarda, Farindola, ascoltami, Farindola la conosco bene perché c'è il pecorino forse più buono d'Italia. Sì, assolutamente, è vero. Dunque, come posso dire? Cioè, l'Abruzzo, ragazzi, hanno preso veramente una botta di quelle. Ho capito, esagere. Ma c'è qualche responsabilità nei soccorsi? Se potevano salvare quelle persone all'albergo, sì o no, secondo te? No. No. No. Io penso proprio di quello che è successo, ragazzi, è come ha detto Gentiloni, è una cosa eccezionale, fuori da ogni Senti, volevo chiederti una cosa, caro, c'è una dottoressa che è venuta ospite da noi nei giorni scorsi, caro Gianfranco, e che ha detto una cosa terribile a proposito degli omosessuali. Dice: io li amo, però c'è un problema, che fanno sesso anale. Ed è ma veramente è stato un caso clamoroso qui alla Zanzara, è esploso in tutta Italia. Questa la vogliono cacciare dall'ordine dei medici semplicemente perché ha detto che il sesso anale fa male, che provoca delle lacerazioni terribili. Ti giuro, ha detto così, non voglio dire niente, ma è così. Certo, questo è come Bin Laden. Cioè, che porti come Bin Laden? Scusa. Dai, come Bin Laden, sì, ma è vero, dai, no, non si può parlare di queste cose alla radio. Ma come no? Questa ne ha parlato, cioè, questa ne ha parlato. Questa ne ha parlato, se vede che c'aveva voglia. Ma perché tu? Chiudiamo con la barzelletta. Da 90, chiudiamo con la barzelletta, vai. Sì. Poi lo mandi via. Dai, senti, sì, no. Ascoltami, questa è vecchia. Dimmi. Beh, insomma, per esempio, c'è un nano che passa per le vie della città. Pure i nani adesso, sì. Dici. Sì, nano, c'è un passo per le vie della città, sì. Trova scritto su muri: abbasso la figa, e il nano, era ora. Vabbè. Bellissima, a finire. Senti la risata, senti la risata. Ma non c'hai qualcosa sui gay? Una barzelletta sui gay? No. Sì, beh, sì. Sì, dimmi, allora, dimmi una, dimmi. Scusa, dai. Allora prendono il volo, sì. due gay, a un certo punto salgono su questo aereo. Sì. Allora a un certo punto lui l'altro fa, dice: dai, facciamo l'amore. Dice: non è possibile perché stanno tutti quanti dormendo, e questo va avanti, dai, no, non è possibile. Passano 2-3 ore, dice: dai, adesso dormono tutto. Ma no, guarda, ma almeno accertati che stanno dormendo. Si rivolta verso questa mega diciamo il giambo che tutto quanto viene, fa forte: che c'ha una sigaretta? Vedi? Non risponde nessuno. E questi cominciano a trombare tutta la notte. Sì. La mattina l'oste si apre 6 tapparelle, siamo la più grande compagnia al mondo. Dice: serve un tè, una camomilla, c'era un vecchietto lì sotto, vuole una coperta. Quello per chiedere una sigaretta stanotte gli ha fatto un culo così. Oh mamma mia. Ma cosa ho fatto? Comunque senti, Gianfranco, la realtà è che, per esempio, una come Daniela Martani, che è quella capa, cioè quella che è molto visibile degli ambientalisti, no? La vegana, super vegana, tutta la faresti quella rotta di collo, diciamo la verità. Ma la conosco. Ma sì, è buona. Io la conosco. È venuta sì dalla trasmissione con la grande, diciamo. Quando lei mangiava il pane che c'era il miglioratore, no? Beh, insomma, non il miglioratore è stato il punk se il maiale, Tu dici che non rispetta proprio. Ma ascolta, però a te ti piace lei ti piace anche per rabbia, anche per rabbia, no? Anche per Beppe, tu devi sapere che gli ingredienti sono cambiati. Certo. Non è più gli anni 60. Oggi dobbiamo andare a verificare se c'è un chimico. Non c'è chimica. È come la cucina. Siamo tutti aiutati un po' anche dalla chimica in cucina. Dunque, che vuol dire? Che vuol dire che bisogna stare attento perché noi non sappiamo quello che cosa. Ma i vegani sono malati, secondo te, un po' in testa? Sì, sono malati. Beh, loro hanno, per esempio, questo emblema, è la fava di Tonca, che è molto buona. La fava? Di Tonca. Okay. Ha un aroma particolare, veramente. E come no? Per i vegani è come. No, ma in testa loro sono malati un po', secondo te? Sono... No, non sono malati. Ascoltami, il veganesimo è uscito nel 1944, quando in Inghilterra si sono dissociati persone. Facciamo è vero. La storia del coso. Lo so. Ma tu saresti in grado di fare una cena interamente vegana, una come cena stellata. Ma sono pericolosi questi qua? Sono pericolosi? No, no, ma ci vogliono bene, ci vogliamo bene tutti. Intanto su ciao, questo pianeta e questo non c'è. Ti saluto, non c'è vabbè, cambiamento. Ti abbraccio. Cioè, una banalata barzelletta in conclusione. Dai. No, dai, basta queste cazzo, queste barzellette. Sui vegani, una sui vegani, non ce l'hai, no, una sui vegani. No, scusami, allora questa va per Parenzo. Sì, per Parenzo. Sì, sì, allora a un certo punto c'è sul letto di morte che il vecchio ebreo sta morendo. Oh mamma mia, adesso cosa succede? Dai, allora, ottimo, sugli ebrei. Allora, ascoltami. Allora a un certo punto si avvicina e dice, ma dov'è la mia moglie, la mia donna della vita, sono qui caro, sono qui, ma il mio primogenito, sono qui, sono qui, sono qui, ma il mio secondogenito, sono qui papà, ma la piccola, sono qui papi, ma bottega chi c'è? Ciao Giafra. Non l'ha capita questo, in bottega, al negozio. Al negozio, l'ho capito, dai. Gianfranco Vissari. Ciao Giafra. Amici miei. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La Zanzara. Siete fantastici, ragazzi, solo che state mettendo in crisi il mio matrimonio. Potrei arrivare a casa alle 8:05, invece eccomi qua ancora a viaggiare a 40 km orari sulla Tiberina per ascoltare a voi. Non sarò a casa prima delle 8:45. Allora, la mia amorosa è 2 anni che vive a casa mia e mi ha detto questa cosa stasera. Io non pago affitto, non pago affitto, yeah! Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Sempre tecnico, caro questa Davide. Questa era la tecnico. Signora Anaike Rivelli, se sì, non ricordo sì, male. Sì, come no, certo. Quella sì. Che cantava la la la la la la. Non ti ricordi quel maiale no, del tecnico, non si ricorda quel tecnico del regista. Enrico da Monza, vai Enrico, no, vai. No. Dimmi. Ah sì, però se no non si sente, vai Enrico, scusami. Pronto, mi senti? Sì, dimmi. Signor Parenzo non c'è, è andato via. No, non è qua, via, è qua, no, però sono andato via a cena, Enrico, non si capisce prima. Niente, Enrico, dimmi, dai. Mi senti adesso, si capisce? Sì, mi senti adesso, forte, ti sento, se riesci a telefonare, sì. E vorrei dire, signor Parenzo, come fa a sopportare tutte queste immondizie, sta feccia di quando parla? Come fa? Si fa. Come e poi volevo dire una cosa, signor Cruciani, lei è un uomo di cultura, lei, signor Parenzo, signor Vissani è un grande cuoco, sì. Ma un grandissimo ignorante, che trasmissione deve fare? Cioè, in che senso, scusa? Che non è un esperto di cucina, un grande gourmet, un grande esperto di cibi. Un grande cuoco. Mica devi insegnare all'Accademia. Ma che c'è? Mica devi insegnare all'Accademia della Crusca, fa il suo lui, infatti. Sì, però non si può occupare di TV, deve parlare solamente di cucina. Ma chi l'ha detto? Domandato, faceva un poco d'Alema, un poco qui, un poco qui. Poverino, è bravo di cucina, lasciamolo parlare di cucina. Comunque, ritornando a prima, signor Parenzo, le volevo dire una cosa. Quando lei sente, per esempio, questo signore Corrado di Monza, che poverino io lo conosco, è un grande scurnacchiato, ecco perché diventa così, perché segretario della sezione del PD gli ha fregato la donna. Come fa lei a sopportarli? Mi dica. Oh, Davide, è a te che ti si rivolge. Ma che cosa devo dire io? Come ma fai cosa, che domanda è? Che devo sopportare? Sono qui, sopporto, combatto, lotto come un leone. Che devo fare? Mi indigno quando serve. Enrico, che vuoi? Ma mica ho capito che vuole questo. Non per i soldi, volevo dire, no? Eh? Ma tu sei, i soldi. Ma tu sei vero o finto? Ma di che cosa sta parlando sei questo qua? Finto? Non ho capito. Sei vero o finto, Enrico? Io sono verissimo, Cruciani. Io sono il famoso pescivendolo globale. Oggi mi trovo a Monza e vivo nella città più bella del mondo, pescivendolo Napoli. Pescivendolo globale. Ma qual è quello delle canne? Se n'è andato quello delle canne? Io sono delle canne, Cruciani. Ah, e che ne so, io scusa. E si è visto l'effetto però, perché fate dei discorsi sconfusionati. Si capisce che ha fatto effetto la allora, cannetta. Enrico, ecco. Enrico, io non ho capito. Quante canne ti sei fatto? Due, adesso una, Luciana, una stamattina. Sì, ma io non ci credo. Ma non ci credo io. Mandami una foto: 393-71-71-701. Mandami WhatsApp. 393. Se non c'hai WhatsApp, ma chi è? Parla di molti, Luciana. Sì, non c'è televisione nemmeno io. Dai, Enrico, ma perché ci vuoi prendere? Sulla libertà che non ti dico bugie, Luciana. Sul mio onore, potessi morire stanotte ammazzato sull'autostrada. Io non ho né televisione e non è WhatsApp. Guarda, vuoi venire a rubare a casa dei ladri? Non è vero, ma ti giuro, Cruciani. Stai venendo a rubare a casa dei ladri. Cruciani, questo è il punto. Ti giuro sulla libertà, sulla cosa più cara che è mia figlia. Io da 15 anni che non ho né televisione. Sì. Assolutissimamente. Sì, e te fai tre canne al giorno, due o tre canne al giorno. Due canne. Due canne al giorno. Lei sta bella rovinata. Pure tre. Lei sta bella rovinata, amico mio. No, ma non è vero, ma non è vero poi. Non è vero. Ti giuro, Parenzo. Ti giuro, Cruciani. Ma ti giuro cosa? Che è vero. Ma quale libertà di che? Di cosa? Della libertà personale, andasse carcerato se ti dico bugie. Mi ammazzate stasera in autostrada quando vado al mercato se ti dico bugie. Io da 11 anni che non c'ho dal 2008 che non ho più televisione, parenti. E allora, ma noi che cazzo ce ne frega? Ma chi se ne frega? Mi sto dicendo che non mi crede, perché non te lo devo dire di credo? Ma no, perché non è vero, perché secondo me non è vero. Perché mandami un WhatsApp che stai fumando una canna. Che facciamo, Porcinella? Dopo di una mezza sto dicendo una cosa. Ciao Ari, ciao. Buonasera, ciao. Allora ragazzi, io proverei a chiamare Quintino Marcella, che è il signore, il proprietario di un ristorante che per primo, avvertito dal cuoco dell'albergo della tragedia di Rigopiano, ha chiamato la funzione della prefettura. La funzione della prefettura, come sapete, ha fatto la vaga, anzi no, non ha fatto la vaga, ha detto. Nell'ordine, la mamma dell'imbecille è sempre incinta, pensando che fosse uno scherzo. Provi lei a mettersi in contatto con il direttore. Abbiamo sentito l'albergo due ore fa, va tutto bene. Questa storia gira da stamattina, a Rigopiano è crollata solo una stalla, eccetera, eccetera. L'uomo si chiama Quintino Marcella. Sì, signor Marcella? Sì. Buonasera, mi scusi la disturbo, qui Radio 24, salve. Mi dica. Senta, io volevo sapere da lei il nome della persona con cui lei ha parlato il primo giorno nell'imminenza della tragedia. Viene... Non lo so perché non me l'ha detto, io non so niente di questo. No, certo, ma viene tenuto in qualche modo segreto, diciamo, dalla procura. Secondo lei è una cosa giusta o no? Oppure bisognerebbe saperlo il nome? Non lo so, ma questo può... Non lo so dire, io sono per il perdono, quindi qualsiasi cosa avvenga, sì. Ormai quello che è fatto è fatto, quindi sono così io. Il perdono ci libera da tante cose. Anche a giorni di distanza, no? Rileggendo alcune cose, risentendo alcune cose, quelle risposte come le sembrano, quelle risposte che le sono state date il giorno della tragedia? Un po' aleatoria, non capisco perché, comunque era un po' aleatoria, cioè, senza dire niente, non lo so perché, capito? Non lo so, quali erano i motivi per i quali mi veniva risposta così. Secondo lei anche perché si ricevevano tante telefonate, c'è stato qualche equivoco? Perché c'era tanta gente che chiamava, tanti appelli, c'era un super lavoro, io ripeto, voglio giustificare tutto e tutti. Cioè si sente di perdonare questa persona, se avesse commesso... Chiunque sia, anche se l'avesse commesso... chissà quale nella vita, solo per il perdono ci libera da qualsiasi altro pensiero o d'altro. Il perdono ci aiuta. Cioè, oggettivamente, secondo lei, questa persona, questo funzionario della Protezione Civile, non ha nessuna responsabilità? Adesso, al di là delle. Questo non lo so. Beh, queste responsabilità saranno gli altri a valutarle, capito? Io non ce ne so. Cioè, si sente di dire che quel lavoro è stato fatto male all'inizio o no? Almeno questo. Guardi, io sono qui chiuso in camera e non giudico nessuno, sono stressato, sono stanco e non lo so. No, ma certo, questo è comprensibile. Questo sto accusando un po' l'ansia che ho avuto in questi giorni, quindi sto poco bene. No, ma certo, al di là del suo stress che è comprensibile, secondo lei c'è stata una sottovalutazione da parte di questa persona, sì o no, della storia? Oppure anche la sottovalutazione è comprensibile? Io voglio bene a tutti, sono volontario a 380 gradi, sì. Credo in Dio, questo è stato un miracolo della vita e quindi non me la sento adesso di dire gli altri, niente, non fa niente, Gesù sa quello che deve fare. E anche la giustizia sa quello che deve fare. Sì, certo. Lei ha fiducia nelle indagini? Una cosa è certa, la magistratura funziona molto bene, le istituzioni a livello di polizia, carabinieri, sì, guardie di finanza, la procura funziona molto, sì, molto bene a Pescara. Cioè, se avesse di fronte la persona con cui ha parlato al telefono quel giorno, che cosa direbbe? Niente, dico che Dio ti aiuti pure a te. Certo, vabbè, capisco. Grazie, buona serata. Buona serata. Grazie, buona serata. Buonasera. Allora ragazzi, beh, l'uomo è distrutto, l'uomo è distrutto. Il nome però, mi riferiscono che in realtà è un po' trapelato, il nome di questa funzionaria della prefettura, e va detto secondo me, perché nessuno la vuole mettere in croce, né? Quella che ha dato quelle risposte. No, comunque grande questa persona qui è sconvolta, vabbè, ovviamente sconvolta dice, dal Gesù, dolore. Dio, e... io perdono tutti, vabbè. De Cesaris si chiama, sì, Ida De Cesaris. Quella che ha risposto alla prima telefonata di Quintino Marcella, l'uomo che abbiamo appena ascoltato, Silvano da Bergamo, dai. Silvano. Sì, buonasera, ciao. Niente, mi sentite? Purtroppo sì. No, scusami, fermi tutti. La squadra mobile di Pescara ha ascoltato come testimone la funzionaria della prefettura Ida De Cesare. Ieri gli agenti avevano ascoltato Daniela Acquaviva, la dirigente che materialmente aveva risposto alla prima telefonata. Dunque, sì, la dirigente che aveva risposto si chiama Daniela Acquaviva. Poi hanno sentito anche un'altra che si chiama Ida De Cesaris, Daniela Acquaviva. Vabbè, dai, Silvano. Allora, buonasera. Niente, visto che già lui lì ha voglia di fare il comico, sì, io mi domando quando avremo un trampone in Italia che, beh, che parlerà mio di muri. Beh, amico mio. Intanto Trump, alcune le cose che ha promesso, subito comincia a firmare decreti dappertutto. Signor Trump, subito. Noi avevamo più bisogno di uno che faceva i muri. Che muro vuoi fare tu, Silvano? Ma dovevamo farne tanti di muri. Già è stato uno sbaglio quello di abbattere quello di Berlino. Lui è uno storico. Io ci andavo a Berlino con il camion già ai tempi quando c'era il muro. Sì, ma che c'entra, scusa. I comunisti, quindi? Come Parenzo, lì bisognava mandarli a fare il comunista. Berlino Est, lei dice, certo. Sì, bisognava mandare nella DDR, bisognava mandare Parenzo a fare il comunista. Oggi il muro dove lo metteresti tu, Silvano? Il muro ce ne voleva tanti. Che ne so, in Marocco, prima di tutto a Lampedusa. Un muro a Lampedusa, che cazzo serve, scusa. È una persona intelligente questo che chiama. In un'isola metti un muro, sì. Un muro subito, ma diciamo un po' dappertutto servivano ovunque, i muri. Ovunque forse, sì. Un po' tutti. Anche a Napoli. Lei che dove abita lei adesso? Dove sta? Anche tra nord e sud. A Bergamo, anche attorno a Bergamo, un bel muro così non entra più cazzo di nessuno. No, attorno a Bergamo io l'avrei fatto un po' più esterno di Bergamo. Ah, esterno, sì. Comunque giusto, un giusto. Bel muro serviva, ma anche serve, a centro, sì, Italia, sì, così, no? Il sud Italia resta isolato. Ma quelli ormai sono dei nostri, Beh, che vuol dire dei nostri? Sono dei nostri, diciamo, ormai sono. Ma tu che faresti con gli immigrati? Che per esempio quell'immigrato che ha negato a Venezia, hai visto? Sì. No, beh, io non l'ho sentito da voi, però allora quando una persona muore è sempre un dispiacere, sempre, per sì, tutti. Beh, non c'è dubbio. Non a c'è parte dubbio. Se è nero. A parte Parenzo, che se dovesse succedere di Parenzo, brinderemo, sì, con lo champagne. Non esagerare, insomma, se questo, tu ti auguri la morte di Parenzo, amico mio. No, non mi auguro la morte, però se dovesse succedere, brinderemo con lo champagne. Certo. Vabbè, ma tu brindi con lo champagne, scusami. No, eh, ma non solo io, penso che siamo in tanti a brindare. Siete in tanti, sì, bene. Silvano, tu sei mai andato a puttana in vita tua? Sicuramente. Ah, guarda, io faccio il camionista. Sì, ecco, ottimo. Quindi. Più che di puttane ti posso parlare di finocchi. Che succede con i finocchi, Silvano? Scusami. Io non riesco, di sera ero a Ponte d'Era, questi si mettono a girare, ma io non riesco a capire. In Toscana, sì, voi dovete chiedere ai toscani come mai in Toscana, secondo me, c'è il numero... più alto di finocchi. Dobbiamo domandarsi, ma che succede? Che statistica, cos'è questo studio? Non è Pagnoncelli che l'ha fatto? Cos'è questo studio? È uno studio uno studio sul terreno, sul terreno. Però, suo personale, suo personale. Ma che succede a Pontedera? Spiegami che è successo. Ma dappertutto, non so, tu ti parcheggi fuori soliti parcheggi che devi scaricare al mattino, sì. Ma non sei lì da solo, magari 4-5 camion. Sì. Cioè, sono dei movimenti che girano da tutte le parti. Cioè, spiegami nel concreto, che ti è successo? Le macchine che girano, però non vengono a... abbagliano, fanno, dispano. Fanno, disparo, che fanno? Che t'hanno fatto di strano? Fanno, certo, aspettano uno che abbocca o che sia lì magari ad aspettare che arriva uno di questi. Con me te lo assicuro, hanno sbagliato tutto. Boh, io sono l'antica come Vissani. Ho sì. capito, amico mio, però anche tu mi sa che gli dai modo un po' di crederci a questi qua. No, gli do modo proprio un bel niente. No, e se si avvicinano tutto. Che fai, scusa? No, non si avvicinano più di tanto, te lo garantisco. Perché? Che fai? Spari? Che fai? Non ho capito. No, cosa vuoi sparare? Ma che ne so, dici via, show, andatevene via, brutti froci. Sai cosa c'è di bello dove c'è tutto questo movimento? Dove c'è? Dove? C'è di bello che non ti rubano niente, perché essendoci tutto questo movimento in giro, sì. non questo ti rubano bello, il gasolio, non ti tagliano i teli per rubarti la merce. Vai tranquillo, dove ci sono loro che girano è come se ci fosse la polizia. Dove ci che sono i finocchi c'è polizia. Che grandi testimonianze. Dove c'è finocchio c'è sicurezza. Questa è buona, questa è una buona mano. Sì. Dove c'è finocchio c'è sicurezza. Beh, sicurezza. Questo diciamo che è una massima. Caro Sibano, buon viaggio col tuo camion, mi raccomando. Ciao, eh. Grazie anche a voi. Mi raccomando, Paesio. Viva il camionista. Io farimo con uno stronzio. Sì, non le auguro di star bene, per il resto tutto a posto comunque. Io farimo con stronzio. Sì. Mi saluti sua moglie. La canzone dei nani dovrebbe essere tramutata. I muri. Viva Trump! Andrea da Genova, dai. Buonasera carissimi. Dimmi. Lunga vita a tutti e due, soprattutto a Parenzo. Dimmi, forza. Senti, una delle prime cose che ho visto su internet stamattina è stato proprio il video di quel ragazzo che ha negato a venire. Sì. E ci sono rimasto veramente male. Con che cosa? Infatti è tutto il giorno che ci penso e dopo anni che vi ascolto mi sono risoluto finalmente a chiamare. Vabbè, adesso la stai facendo lunga, perché che cosa ti ha sconvolto? No, ho già finito, cioè nel senso la cosa sconcertante erano i commenti delle persone che... Ma questo l'abbiamo detto già all'inizio, 40 volte, adesso vuoi sottolineare detto, questa cosa? Ti dico solo questo, sì. Non so, mi piace pensare che mi sarei buttato per cercare vabbè, di ma fare questo qualcosa per chiacchiere, ragazzo, dai. Ma questo è facile da dire, però ti posso assicurare che se avessi avuto di fianco uno di quelli l'avrei cacciato in acqua, uno di quelli che hanno fatto i commenti. È Negretto questo qua, esattamente. Anzi, propongo un nuovo gioco social che se ti capita di avere di fianco uno che fa un commento del genere, una situazione del genere che dovrebbe ispirare carità cristiana, ma al di là delle idee sulle politiche, sull'immigrazione, eccetera, vedi uno che sta negando bianco nero, cazzo, cioè non è che dici uno di meno del non genere, è... cacciolo in acqua. E punto, facciamo questo nuovo Alessandro gioco. Da Milano, vai Alessandro. Ciao Alessandro. Sì, pronto? Vai, dimmi. Allora, volevo dire una cosa veloce, Cresto, molto veloce. Puoi eliminare la prostituzione? Sì. È semplice, elimina le mogli. Quelle da eliminate strada. Le mogli ha eliminato la prostituzione, perché il 90% dei clienti di prostitute sono uomini sposati. Io con questo chiuderei, perché mi sembra che abbia detto una cosa molto ragionevole, Alessandro. Meglio chiudere. Peccato che non ho tempo, volevo spiegare più cose. Ma grazie. Domani richiama uguale. Non si può eliminare la prostituzione, altrimenti bisogna eliminare le mogli. Questo è molto chiaro, molto, molto limpido. Sì, e ci sentiamo. Finiamola domani. Qua. Vai. Finiamola. Dove c'è finocchi c'è sicurezza. Dove c'è finocchi c'è sicurezza. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Un po' di tempo fa non lo volevi prendere nel culo. Radio 24. Libera la voglia di fare.